facendo, andà bene, andà bene, riprendita la roba. Sto sgranocchiando, se non siete accorti, così non mi basta un po' con la roba. Fai bene, fai bene. No, io già me ne andato, ma ho fatto un panino, un po' di mezzo, un brusciutto. Non va male. Io ti ho cenato, Greci. Come gli alline hai cenato? Ma dopo io devo fare cosa, quindi mi sono premunito. Ho già preso anche il caffè. Bravo, bravo, sono contento per te. Dimmi un caffè, io sto con 3 dì senza dormire. E io, addirittura. Io non prendo mai caffè, guai, se non mi piacciono cose da bambino, dico io lo prendevo, ma no, non ho mai avuto la necessità. Gappa. Ho roba il segnale adesso. Mi scusa? Il segnale è diminuito o sempre lo stesso? No, più o meno lo stesso, forse un peluzzino di più. Gava gava. Come è cambiato l'apparato, questo? No, no, no, sempre lo stesso. Sempre lì intorno 9.30, picchi positivi, dai. Cavarocci. Il mio è ogni tanto mi dovete dire qualcosa, perché non mi so orientare. No, è sempre bene la radio, anche la Santiago è buono. Perché con le tempi che corrono ogni tanto ti puoi andare in quattro antenna e fai danno. Neanche te ne accorci. Gava gava. Comunque venerdì è prevista neve, venerdì e sabato è un po' da lupi. È tanto non è bene il vento, capita. E pure i tanchi te ne avevo allora, vai. Dal 20 dura, perché fino al 20, per quello coprite bene. Positivo, e lo credo che lo coprite bene già, lo Iulia. Tu non ci credi che io sono convinto che quest'estate facciano un'estate di qualcosa da morire? Quello che dico io, quest'estate ce ne sarà da scioppiare. L'importante è che non faccia Eva, non mi fa troppa acqua. Capa. Buonasera Domenico, ben entrato, ben sentito, buon trabacco, Roberto le prendi. A me, ben sentito, avanti Mario. E Domenico, buonasera, ben entrato. Buonasera, buonasera a tutti. E che si dice di lunedì sera? Come siete messi? Ho sentito che quello lì ha mangiato, quello là sta sgranocchiando, quello là sta per andare a mano, quello là sta bevendo il caffè. Tutti messi bene. No, ma dimmi una curiosità, tu tutti i giorni e della settimana a parte le feste vai a Olbia, tutte le notti? Poi io. Cioè parti verso le, che ore sono, le 8 e arrivi verso le 10 e mezza, quanto ci prega arrivare a Olbia? No, no, no, no, io no, 10 e quarto, sono lì 10. Ah, che è una bella stradetta a farla di notte, mamma mia. Meglio farla di notte che di giorno. Almeno vai tranquillo. Vabbè, per certi punti di vista sì, nel senso c'è meno traffico, però cazzo devi avere gli occhi aperti per ogni eventualità, un animale, una qualunque cosa che te ne può uscire di colpo che lo vedi all'ultimo momento. Il 30 dovrebbe andare bene. scusate, questo è Greg. Ma lì alle tre non becco mai nessuno e poi meglio a colore lì è meglio tenere gli occhi gli occhi bene svegli sulla strada, Mario, perché quando parti così presto è veramente un giraccio. Va bene, l'importante è partecipare. Avanti Roberto. Vabbè, un bel lavoro a camionista, ma un sacrificio allucinante. Tu invece che orari fai, che tempi fai? Ma io in genere, maggior parte delle... cioè noi lavoriamo di giorno, e attenzione, perché noi facciamo anche 16 ore al giorno, però poi quando terminiamo, cioè si dorme a casa e poi si riprende magari l'indomani mattina alle 5, alle 3, alle 4, allora che ero, beh, non è quello il problema. Però noi per fortuna dormiamo la notte, dai. Vabbè, purtroppo è come i panettieri o i cosa, quelli che fanno i giornali, i redattori di giornali che lavorano, noi quando dormiamo loro c'è sempre qualcuno che lavora la notte, se no certe cose non si potrebbero avere o produrre, dai. Ok, anche poi una curiosità, che microfono stai utilizzando? Tropicale. Bella, mi piace questa radio, pulita, tranquilla. Ti piace il microfono? Il lusso, pulita, senza difetti. A paroci. Beh, così deve essere, pulita pulita, questi bippi, contro bippi e coso, ecco, mi riesca naturale la voce, è più bella, dai. Sì. Mentre Giuseppe, trovo dall'altra volta, tu rispetto all'inizio, secondo me è un po' degradato. Come mai, vabbè, che è successo? Sei cupo come modulazione, non so se hai cambiato microfono o che cosa. Ultimamente, cioè, rispetto a come ti ascoltavo all'inizio, o hai cambiato apparato, non lo so, ti sento cupo di radio io. Posso provare a cambiare apparato, vabbè. Ma più che apparato parlo di microfono, che microfono c'hai? E io sto uscendo con l'M93 adesso. È strano, ma vabbè, quello che ci vuole è un po' modificato. L'M93, che cos'è l'apparato? L'M48 Multi. Io con l'M93 ti posso dire, non perché lo dico io, ma con un altro dice, me l'aveva fatta Luca la modifica, e dice che c'è una bomba. Ma vabbè, non lo so, ti dico la verità, io ho fatto alcune prove anche questa sera e come radio mi hanno detto che era buona. Va bene che qui ogni tanto cambia, attenzione, da un momento all'altro può anche cambiare come portabilità, diciamo, dai. Però è molto cupo mi senti tu. Sì, no, allora ripetiamo, io sto dando delle indicazioni particolari, cioè nella media va più che bene, la radio è buona, però ti ho sentito meglio in certe altre situazioni, ti sento un po' cupo, la radio 5 è chiarissima, però se vogliamo andare verso l'eccellenza devi metterci un po' di acuti, perché è cupo di tonalità alte. Cambio microfono un secondo, vai. Vediamo a Mariesio cosa ci racconta. Mariezzo ha poco da raccontare, Mariezzo esce sempre con la solita radio, senza bippi, senza essa, senza niente. E arriva. Vediamo invece Domenico cosa ci racconta, se dove è arrivato. Avanti Domenico. Avanti Falchetto. Positivo, Domenico è sempre la grande, è perfetta radio, sì, complimenti. Niente, Natalia si è spostato, riprendi tu Mario, dai. E se riprende Giuseppe per un attimo, per un controllo? Tappa, va bene lo stesso. Giuseppe, dimmi un po', cambiato il microfono. È positivo. Aspetta, ti guardo anche io, così ti dico qualcosa. Avanti, 1, 2, 3, fatti sentire. Sì, vabbè, vedi un pochino, io adesso sto usando l'originale suo, il Midland, è quello che ha i tastini per, diciamo, per cambiare il coso, per cambiare i canali in automatico. Allora, diciamo una cosa, c'è più basso di prima come radio, però è molto più di qualità superiore, nel senso più naturale. più fedele alla realtà e mi piace come era. Se riuscissi un passo avanti, purtroppo hai un microfono non amplificato, se no andrete perfettamente, ma è bella radio pulita e chiara. Capparo bene, andrà bene. E forse sarà giù di batteria questo microfonino qui, adesso vediamo un po', dai. No, vabbè, questo non è un microfono amplificato, è un microfono suo originale, per cui non puoi farci niente, non è questione di batteria. La questione è che per spingere un po' di più, dovrebbe spingere un po' di più per avere una tonalità un po' più forte. E così lo becco, eh? Prova a parlare, hai sollevato, si vede qualcosa, prova un po'. Vedi un pochino come sto scendo adesso, Robè, 1, 2, 3, prova. No, adesso hai sollevato, come livello già va bene, però prova a parlare, cos'hai toccato? Niente, Robè, mi sto avvicinando di più al microfono. Però sei troppo, probabilmente troppo vicino, sembra che c'hai attaccata le labbra al microfono, per cui sta un pochettino, sembra saturo come modulazione, si è sollevata di parecchio, però non l'hai degradata, diciamo, avvicinandoti troppo. Cappa, adesso sono distantissimo dal microfono. Guarda, così stai andando alla grande, se volessi essere un po' pignolo dovresti sollevarti il livello, ma per me va bene anche così. Cappa, Robè, adesso faccio un'altra prova, dai, veloce, veloce, intanto riprendete voi, mi occorrono un paio di minuti a me. Anna mia, vediamo di nuovo Falchetto e poi fa girare. Io Roberto. Chi è? Ciao Robè. A Cappa, tu sei? Ciao, poi positivo. Qui a Cappa, era un po' va bene, non fermentava da qualche giorno. Se non mi intendo sono così a ancora, non ne avevo 3-4 giorni fa, ero muto a Giumbai. Tra un po' spengo che se ne sta andando di nuovo. Cappa, io ti ho addosso. No, io sto sotto cura, dimmiutici che è Ariosol, mi dopo andare a fermare Ariosol. Mi vuoi Abruzza? Ah, più che influenza è questo virus, stanno dicendo che c'è in giro, ma ha cribato la gola, proprio stare male male. Cappa, tagliare anche oro, che si è andato tanto bene, io ho avuto un altro tipo di virus, da sotto in pratica. Cosa dire da sotto? Ah, di lei avanti. Ma che è che mi deve venire il cupacca? Due giorni, mesi. Devi prendere quelle sostanze, quelle medicine con l'acqua, con la chiamano intergermina. Ci siamo ben organizzati in quella roba. Eia, vediamo se Domenico ci ascolta ancora. Avanti Domenico, se ci sei batti un colpo. Di Santiago 7 qua, se vediamo Mario, l'hai sentito a Domenico? Certo che l'ho ascoltato a Domenico, però non stavo guardando il segnale. Bravo, io ne approfitto perché devo uscire e niente, saluto a tutti, buon proseguo di serata, buon tutto e ce la riascoltiamo alle prossime. Ciao a tutti! E io, ciao Mario, buon tutto, buona giornata per domani. Avanti perché? Ciao Mario, Bulco RT e ce ne ascoltiamo alle prossime. Avanti, Vela. Ciao Mario, ciao, ce ne ascoltiamo. E beh, perché? Dimmi, Diepa. Allora, fammi vedere chi sta segnale, io. 1, 2, 3, 4, 5, si prova. E beh, tutto lì. Perché? È sempre tre segni, Come? Sempre tre segni. Di che cosa? Di segnale. Guarda adesso. Com'è? Sempre tre. Sempre tre? Positivo. Vabbè, lasciamolo così. Non prendi, arriva Falchetto, più qua. Radio. Vabbè. Ma questo è parlato sopra. Cos'è detto per qua? Ma va, lascia la radio. No, ora si fa sentire. È buona. E se non so, ci arriva tanto a volte Falchetto. Ma è così giorno o anche prima? Sempre. Come è così basso? Piazza strana. Eccolo, Quanto devo andare arrivi? Non lo so, ti ho una verità. Strano, pensavo almeno 7-8. E quando arriva perché a te? me non fa testo, siamo troppo vicini. Ma allora se ti arriva a 3 adesso, e quando guarda la porta ti regalo tu arrivi via. Sì, infatti non lo sentivo. Ah, non lo sentite, quello allora non lo sapevo. Era le volte quando c'era appena il QRM era impercettibile. Appa. Aspetta che forse c'è Domenico, sta chiamando. Allora di Domenico. Sempre alla grande, e non so se Pier Paolo lo senti o se ti ha sentito, ti rilancio Pier Paolo, avanti Pier Paolo. Ehi Acappa, in questo passaggio l'ho sentito anch'io Domenico, buonasera Domenico, ben sentito. Ehi, non ti ha salutato Pier Paolo comunque, vediamo un po' se Giuseppe è rientrato. C'è anche qualche altro, più altro di Domenico che stava chiamando, vediamo un po' chi è avanti. Attenzione sul 21 Giuseppe di Monaco, poi cambio. Avanti Giuseppe. Sì, eccomi qua con l'altro apparato. Buonasera a voi, l'abbiamo sentito cordialità. Buonasera Giuseppe, ben sentito. Tanti Roberto. Sì, cosa vuol dire l'altro apparato? Un altro microfono o un altro cosa? Apparato proprio. Proprio altro apparato questo, quello che uso in parla pesante. Un microfono, niente, che ve ne ricordate di prima? Peggio o meglio? No, no, ti voglio dire, è lo stesso microfono avevi la prima volta o è anche un altro microfono? No, no, è il microfono che avevo la prima volta, Robe. Mi sa che il problema è il microfono, perché non è cambiato quasi niente. Cazzo, allora vuol dire che il microfono sta cominciando a perdere i colpi. E prima, ma ti stai aiutando con qualche cosa tu? Ma in questo momento sto dicendo? In questo momento proprio. Ma un pochino di scirocco c'è nell'aria, Prima del tutto, volevo sentire una cosa, se dipende dal giocattolino che c'è vicino o che cosa. Sembri un po' compresso, troppo in saturazione, là. E adesso come va? Vedi un pochino se riesci a prendermi meglio così. Adesso sei tu, questa è la radio, sì. Ti sta bruciando qualcosa quello che c'è appresso. Peccato, vuol dire che è ancora compressa la bobina. Allora io ti posso dire, il segnale cambia di circa 5 punti, non più di tanto, perché se da 9 quasi 20 passi a 9,25, per cui la parte mia sta andando alla grande anche senza aiuti. Adesso vedo un pochino di vedere un pochino cosa... non lo so che cosa gli può essere preso a questo aggeggino qui, perché prima mi stava dando una radio a dir poco stupenda, proprio avevo migliorato alla grande. Guarda, così stai andando alla grande, radio naturale, giusto, l'amplificazione va bene, quando attacchi l'altra cosa ti ricupisce la radio, te la fa più cupa e te la rende un po' distorta nelle frequenze intermedie centrali, dai. Capparo, dai, andà bene, allora lascio tutto così. E perché? Come? Sì, in effetti confermo quello che ha detto Roberto, più pulita. Fammi un passaggio tu, io ti ho preso stasera alcuni passaggi con l'altro, ti voglio vedere con questo, perché vai. Attento Giuseppe, se ne vai copiando, cambio. Diciamo che un Santiago di 7 e una radio di 5, dai, va bene, perché. Guarda questo passaggio adesso, guarda Santiago. Santiago di 8. Ma vuoi tanto di un puntino, dai. Perché va bene, però la radio sta arrivando bene qui, è pulita. È positivo, dai. Riprendi tu, Giuseppe, pagina. Sì, avanti Pierba. Ciao la casa. Sì, diciamo per un senso, dai. Ma quella... L'M93 stai usando? È positivo. Che ma? Prendi l'abbracco. Ma non ci si accorgono anche un po'. Sì, un attimo l'abbracco. Vorrebbe misurato la batteria perché mi sa che non sta neanche pompando così come i primi giorni. Chissà quella batteria è andata, poi gliela hai messa nuova. Infatti invece devi mettere una scalina buona, Scusate che c'è stato un break. Avanti Marco e buonasera. Avanti. Ok, sono Bracco e niente, semplicemente una prova, dimmi come mi stai ricevendo. 69 più 50, vediamo gli amici più lontani, iniziamo la prima prova e poi andiamo a Giuseppe. Lo sentite a Bracco? Scusami, diciamo tu mi arrivi fortissimo, 8,9 più 50, però diciamo non ho capito bene. Insomma, ho capito, la radio è un po' bassa, ecco, anche il mio. La radio mia è bassa, comunque non per la questa parte. Buonasera, ya, ci siamo sentiti dai, prima per altre cose. Ti rilascio, ho detto a Pierpaolo che loro sono zona opposta alla nostra, vediamo un po' come arrivi. Pierpaolo, guarda se lo senti a Bracco. Sì che ho sentito, Santiago 8, ok, a te è molto basso e diciamo segnale molto basso, comunque ho capito il tutto. Vabbè, io però vi ringrazio perché sto mettendo a punto l'apparecchio, alle volte diciamo che sto uscendo con un sommercampo vecchio, no? Alle volte mi partano le finali, dobbiamo metterlo, devo diciamo togliere stazionari. Ok, vi saluto, ciao. Sì, buonasera. No, ma c'è una cosa di polo tuo, con che antenna? Non ho capito. Che antenna è di polo, la finale o che antenna c'hai? Ma è una verticale Mantova mi sembra, ma ero parecchi anni che non modulavo, da diciamo, e allora ho perso anche l'esperienza, adesso ho messo a punto gli apparecchi, poi magari ci risentiamo. Non c'è problema, siamo sempre qua, normalmente sul 21, dai, compagnia comunque Roberto da questa parte, poi c'è Falchetto, Giuseppe, ti vorrei rilanciare a Giuseppe e poi a Falchetto, così facciamo i confronti di segnale. Avanti Giuseppe e poi fai girare. Cappa, dai, io qui lo sto prendendo con un Santiago di 9 e una radio di 5, avanti perché? Cappa, io Santiago di 8 e una radio 5 lo stesso, Pensavo che arrivasse più forte, considerando che è su, da una alta, dovrebbe essere lui, è abbastanza vicino qua. Ok, Giancarlo riprenditela. Oh, positivo, qua è nella tua zona, Roberto. Allora, non proprio nella mia zona, diciamo di sì, più vicino a me che a voi, sicuramente nella zona alta di su, più in su di dove sto io. Esattamente non so il punto, però è in quella zona lì. Cappa, va bene. Dopo già arriva bene anche qua. Attenzione un secondo, Giuseppe vi chiede un controllo, cambio batteria. No, da parte mia la batteria credo che non c'entri niente, Giuseppe. Va bene la radio, non ha problemi di strappamenti o cose del genere. Sì, va bene, vabbè, era giusto una curiosità. Per me si è sollevato il radio. Sì, scusate un attimo il telefono. Cava, per me ti sei sollevato, Come va adesso, Pierpa? Per me bene, attacca a vedere. Continuiamo qui Giuseppe che chiede un controllo radio a Vela. Vela, vedi un pochino il controllo per tornato cambio. Guarda, è brutto essere pignoli, ma è una compressione più che giusta. Non si è attaccati, è una compressione più che giusta. Deve essere pignoli dire che sei salto, dai. Allora, aspetta un secondo, vediamo se riusciamo a sistemare la cosa. No, non lo so, per me va bene, guarda. Cappa. Buona. Ma adesso voglio capire qualche trattamento, se è buona, se sta strappando, se è satura. Diciamo di no, dai. Aspetta, allora, faccio l'ultimo controllo, datemi 2 minuti. Cappa. E sono compresso, dai, sono compresso, ma già va bene. Infatti sono compresso, Puglia, già va bene. Sono compresso, è chiaro, segno di spinta, dai, che è accettabile, non è una cosa così, lo si sente il collo della compressione, ma tutto lì. La saturazione è un'altra, che non si mangia le parole. Scusate un attimo. Cappa. Io mi sto ascoltando un attimino su un altro canale che devo fare una prova con quella persona che c'era prima che sta facendo funzionare con l'apparato vecchio, quel sommercato, sono su 40, così magari ci sentiamo dopo, dai, proseguite voi. Va bene, cappa. Va bene, proseguite voi, dai, che io mi mangio qua 2 arance, dai. Cappa. Pierpa. K, dai, Pierpa, se senti che qualche anomalia intervieni. Io adesso provo a fare una prova. Guarda, per me insomma tutto bene. Comunque già sono qua, mi butto la raggia, me ne mangio la mia cena di stanotte, dai. Calma, dai, fai che vedi un pochino cosa ti sembra adesso. Oh, è buona, José, è buona, lascia tutto così e va più che bene. Adesso fai che cosa sembra? Buona, buona, buona, è sempre buona. Ma è meglio di poco sta strappa, lo strappa e cotta e com'è? No, non stai strappando, va bene la radio, va bene. Saturazione come, se no posso stringere ancora, eh? No, non è satura, no, va bene. Capalai, adesso togliamo le vitamine e niente, e richiudo tutto. Kappa, già va bene, dai José, chiudi tutto e va bene così. Grazie Franché, dammi 2 minuti. Positivo, siamo qua. Dopo 3 giorni. Cava cava. Quindi ne approfitto per fare QRT, dai, che non è appena lo sonno. Ciao Pierpa, ciao anche a Giuseppe, ciao a tutta la quota, dai. Tutte le prossimine. Ciao ciao. E Giuseppe dove? Giuseppe è sul 40. Ma Giuseppe stava chiudendo la parata, cosa, poi non lo so, stava facendo e tu stava riprendendo subito. Dava gaba. Abituato alla modulazione che è tu, hai capito quello che ti voglio dire? Capo, sono già quanto è. Però aspetta, guarda, nota la differenza da così a così. Sì, più chiaro, papà. Però ti sento bene anche nell'altra modulazione, proprio bella limpida come radio. E soltanto mi sembra un pochino più lontano, mi hai capito? Era comprensibilissima come radio. Però voglio sentire una cosa. A me stai dicendo? Sì, e cosa vuoi sentire, dimmi? Poco fa, quando l'errato girava più lecco, lo sai? Quando l'ho fatto, girava più lecco. Aspetta. Regolare. E questo è regolare, no? Avanti. È tutto a posto qua. Controllato quello piccolino che è in macchina, Pierpa, domenica. E beh? radiatore. La sonda la Gigi Motore, vedrai che te lo riportano con 400 canali. Quello che usa in barra pesante, mi sto dicendo. Sì, capa, quello che è in barra pesante. Bisogna che ci faccia un pensierino e... perché guarda qui sai quando entri in questo giro, per tavolo, lo sai quando esci, perché con tutte queste storie qui, tutte queste, ogni tanto ne viene fuori una nuova, stai sempre a portafoglio in mano. Purtroppo scusate, non lo so, me l'hai detto tu che non c'hai altri vizi, non metti, non fumi, non fai almeno una rubi. Io mi porto, se vai a nuotare, se vai in piscina, ti prenderò per la piscina e a pagamento devi pagare ogni mese. Se pratichi dello sport, sono corso lo stesso. Non lo so, è un po' di costo genere, gli hobby che si vogliono fare. Beh certo, sono perfettamente d'accordo, gli hobby costano ed è così, o tutti in generale, per carità. E quando facevo tiro con l'arco, ci voleva, guarda, solo per tenere l'arco, per accordarlo bene, per essere, diciamo, puntino, per ogni gara che si facevano sempre soldi, senza contare poi le iscrizioni per la gara. Appunto, sto dicendo, cioè... se ce l'hai, insomma, qualcuno costa un po' di più, qualcuno un po' di meno, diciamo che lo sai che cosa è il coso di questa roba qua, è che alla fine uno deve valutare, no? Però tutti quelli che l'abbiamo fatto partiamo sempre col portatilino, invece pensandoci meglio, invece di stare lì a comprare quello, a comprare quella, mi compare il giro e prendi tutta un'ora e buonanotte al secchio. Vabbè, quello sì, quindi l'hai abbreccato il pieno, perché effettivamente funziona così. Senza stare, se fai un giro di conti di tutto quello che spendi in un anno per i tassi, e mi serve quello, mi serve quell'altro, poi cerchi di vendere l'apparato che hai per migliorare. Invece ne trovi uno con le contropalle, fai la spesa diretta e via. Sono già apparati che si aggirano intorno, allora questo che sto parlando adesso si tratta di un apparato di 460 euro, non so se avendo idea. Ci posso credere alla grande, perché mi hai dimostrato anche di avere degli apparati buoni, degli apparati validi, e già mi hai fatto vedere anche quello che ha avuto anche la bontà di prestarmi quando sono rimasto appiedato con il baracchino, ti ricordi? Ma quello è proprio il mio vecchio, un apparatino, però completo lo stesso, anche le volte, anche se uno vuole prendere una mezza misura, ma completo, lo fa una volta e basta, deve soltanto saper scegliere, però giustamente tu non è che fossi neanche così esperto di queste cose, va bene, sono degli sbagli che si fanno, dai, ma non è che sono gli sbagli che uno dice mia colpa, no, alla fine sono sbagli che si fanno, dai, non bisogna far solo una colpa. Imparando si sbaglia, ma sì, buonanotte, al contrario Gitto Giuseppe. Tranquillo Pierpa, è tutto K di Roger, sbagliando si impara, vai tranquillo. K, poi ci arriverai anche tu, con uno non è nato imparato, di riparare la lezione, e poi fin dei conti, è proprio così, se tu invece di stare un comune con l'altro, quello è che li compravi già loro direttamente per la barra. Che ha fatto? Quello che lo sai, domanda, c'è su internet, c'è già con i 400 canali, proprio quello che hai detto a 24 volte, già con i 400 400 canali seriti che ho fatto, e la modica cifra sempre di 120 euro. È uno sbaglio che hai fatto tu, che non lo sapevi di chiederlo già con le norme europee invece che italiane, ecco. In effetti io ho pagato questo normale con uguale, preciso identico, allo stesso prezzo di quello modificato. È successo a tutti, non ti preoccupare, ma io non è rilasciato a voi. Alla fine anche io ho detto, ma non ne prendo più, io ce l'avevo qua la 48, ce l'ho la 68 e ce l'ho, che normalissimi che non hanno niente, capito, comprati anche, vabbè, sono lì. E ce l'ho tanti altri baracchini, ce l'ho Intec, Celebex, ce ne sono tanti, e ti sbaglio infatti di comprarli senza niente, ma anche quelli mi vogliono usati lo stesso comunque. Intanto Birba, se non avessi avuto questi, sarei stato sempre toglie e metti nella barra e poi va a finire che rimbarri mi rugoso il baracchino, dai. Però vabbè, così ci si sente anche con questi, non sarò questo grande cosa, però bene o male mi faccio sentire. A me interessa qui su Sassari, perché io gli amici ce li ho qui a Sassari. Se poi un domani riesco a uscire un tantino di più, ben venga, ma non ho grosse pretese, a me va bene così, sto bene qui in questo giro per farci, facciamo la chiacchieratina ad un'oretta, tranquilli, senza nessun problema, anda, pensa troppo bene a me. Ma a me, per esempio, di parlare con quello che ha perdito non mi interessa niente, no, ma io parlo, se c'è da parlare qua e si vuole fare il questo normale, c'è di qua, c'è da parlare, boh, non mi interessa niente, penso gli amici che sono qua, a quello che fuori sono parli del posto suo, il questo, non me ne frega niente, è tutta una risalzione. E poi, è importante, uno poi piano piano ci arriva a parlare come si deve, dai. E poi, cioè, io dico come si deve, relativamente, perché a me quelli due apparatini che hai tu lì a me piacciono, mi sono anche molto simpatici. Tra l'altro quello che hai tu della barra somiglia molto all'Intec di Antonio, e vede bene che anche quello d'Antonio c'è tutto, c'è Alfa, c'è Marco, è ordinato già così. Sono sbagli che non si è fatto, quando l'abbiamo ordinato l'abbiamo chiesto già così. Però tu non so meglio, hai fatto quello sbaglio, è uno sbaglio che però non è, si può anche essere ripagato, diciamo che in questo momento dovresti aggiungere, ma se ora è la persona giusta te lo riporto lì, vedrai che canale ti rimette. Ci credo Pierpa, ma io questo qui, quello che ho nella barra, no, il 48 l'Excel, me ne sono innamorato perché hai visto il display è grande, in più anche quell'aggeggino lì che, beh, sì, ti magari... E non sarà perfetto come Smitter, però è anche bellino, vai da vedere, non lo so, a colpo d'occhio me ne ero subito innamorato di questo apparecchietto qui, non sapendo, ripeto sempre, che prendendolo in internet allo stesso prezzo ce l'avrei avuto già completo, comunque, oddio, va bene, dai, meglio di niente Pierpa. Ma infatti è quello che dico io, però... Sono un'altra volta che lo dico, non so che cosa ci troviate di strano su quell'apparato, un apparato che va bene, si sente benissimo, non ha niente di particolare, per me è valido come qualsiasi altro apparato, che trasmette così, quando trasmette si sente un po' meno più che bene. A me piace anche la 48, non lo posso vedere per solo per un motivo, perché a me come apparato mi piace, sono i primi apparati che ho avuto e tutto quanto, il vecchio la 48 era normale, però non le posso vedere perché al minimo se c'è un altro negli altri canali non senti più niente, capito? Solo per quel particolare non lo posso vedere. E infatti Sì, Pierpa. Io adesso ti ripeto, cerco di mettere pian pianino da parte qualcosa per riuscire a prendere quella storia là. Ne avevo un altro tra le mani, però no, Cristo non mi ha dato nessuna risposta. Gli avevo lasciato anche il numero di telefono, però non si è, manca a dirmi, telefonarmi e dirmi no, piglia a dire in culo, ecco, niente, mutismo assoluto e via, pazienza. Io non ti ho detto neanche che apparato si trattava. Guarda, mi pare che fosse, non so se tu ce l'hai presente, mi pare che era uguale, però nuovo, nuovo, nuovo, a quello che è Antonello, quella stazione base che è Antonello, quella che va a 220. Quella stazione base che aveva Antonello, uguale a quella lì, che adesso non ce l'ha più, allora è il coso, esattamente. Gli avevo lasciato anche il numero di telefono a questo, no? Per metterci d'accordo, niente da fare, sapevo che lo stava vendendomi, però non si è fatto sentire, a meno che la moglie manco o si è dimenticata di darglielo magari il mio numero, però niente, mutismo assoluto, oggi come oggi ti posso dire che non mi ha contattato nessuno. Ho capito di chi si tratta. Viale Porto Torres. Come Viale Porto Torres? Quello che lavora in Viale Porto Torres, stai dicendo. Il numero è quello che ce l'hanno. Oh, a me mi era stato detto così. Comunque, io ti ripeto, sapevo da gente fidata che era tenuto bene, usato anche poco. Io ho fatto la mia offerta e niente, mi è dispiaciuto soltanto che almeno a dirmi no, non mi interessa, oppure non lo sto più vendendo, oppure l'ho già dato, mi hai capito come si fa, Pierpa? Tutto lì, invece niente. Lo stanno fabbricando. Ma ne fabbricheranno altri migliori di quello, mi Pierpa. Guarda, non è così, è anche già sospetto, perché vuol dire che può essere anche che abbia qualche cosa, non ricordare qualche cosa, lo stanno facendo, mettere a posto. Puccio, ma scacciami tanti, Ma infatti non prendo più niente. Per adesso non prendo più niente, Pierpa, perché io ero in trattativa prima che prendessi questo, il 48 Plus, quello che mi hai indirizzato tu, mi hai capito? No, te lo dico perché magari sono temporeggiato e poi lo fanno, non riescono a mettere a posto, lo scacciavitano un po', e dopo magari ti dice, mi schiacciavo, mi hai trovato, ciao. Lo so, ma non, no, perché adesso voglio vedere un qualcosa di serio, se riesco a trovarlo, non ti dico adesso, ma sarà per fine anno, inizio dell'anno prossimo, tanto oramai fretta non ne ho, Pierpa, tanto ci sentiamo anche con questi. Guarda, io conosco una persona che ce l'ha, solo che non so se è disposto a darlo da solo, perché lo stava dando. Con 5 baracchini, tutti e 5 baracchini, 2 alimentatori, compresa l'antenna che adesso non ce l'ha più, che era una mantova, ma non ce l'ha più, perché è caduta la mantova, è caduta per un fulmine, ma comunque tutti e 5 gli apparati, ma apparati però, che c'era anche in mezzo a quello, è stato un ecco. Anche apparati veramente buoni, tra l'altro c'erano anche uno di questi che sto parlando io in questo momento, c'erano anche uno di questi in mezzo lì, due alimentatori, microfoni da tavolo, tavolo più tre, microfoni da palmo, tutto quanto, 1000 euro. Lì bisognerebbe trovare qualcuno che ti ha appassionato, Pierpa, prenderlo in blocco, dividersi la spesa e poi dividersi anche la roba, vi hai capito? Oddio, lui mi aveva detto che non... forse avrebbe venduti anche separatamente, ma ha detto forse secondo chi è. Però a me è quello che me lo dia separatamente, però non c'ho più nessuno al telefono, non riesco a contattarlo, ecco, tutto quanto lì, dovrei andare una domenica mattina a trovarlo appositamente. Se dovesse capitare, se no non voglio che ti disturbi più di tanto, per amor di Dio, non è quello il problema. È che niente, io adesso in una maniera o nell'altra bisogna che mi rialzi un pochino, perché sai, insomma, da come ero prima a come sono adesso, diciamo che qualche passettino in più l'ho fatto, dai. Capo, non è che sto dicendo comunque devo avere una cosa, è quello lì, chiunque riesca a beccarlo, innanzitutto ho usato pochi mesi. L'uomo, lui trattava Baracchini come fosse un bambino, coperto col panno, tutto quello spolverato, usato e ricoperto. E l'uomo proprio l'ho abitato da nuovo, immaginati. Era spillo spellente proprio, cioè quello si poteva prendere occhi chiusi. Allora guarda, non me ne nego, Pierpa, allora vuol dire che aveva la stessa mania mia, perché anch'io come termino di modulare qui ho l'attrezzo suo, metto tutto sotto, microfoni ben coperti per la polvere, poi anche loro dormono al calduccio la notte. Capo. Voglio proteggere la polvere, perché poi si insinuano nei tastini le cose, infatti creano un po' di fastidio. Comunque vabbè, piano piano, dai. Tiriamo annanze, Pierpa, pian pianino già si sistema tutto, dai, io mi ricordo, guarda, se ci penso, mannaggia, mi deja paralizza la sola. Quando uscivo con quella, tu già l'hai conosciuta, la mia antennina calamitata che usavo in macchina, che la tiravo fuori dalle palmette delle cose, delle persiane che ho. Guarda, se ci penso adesso, guarda, mi deja paralizza la sola. Ma guarda, che io ho smesso, per una decina d'anni l'ho smesso. Ho ripreso nel 2005, quando ho ripreso non avevo più niente. Non c'avevo più niente, mi era rimasto soltanto un vecchio portatile della Intec. E un giorno, una domenica più precisamente, ho detto, ma non c'è te, l'ho detto, ma non ci sarà più nessuno sulla frequenza a Genova. Ho acceso con questo antennino piccolino, lo stesso con una base calentata, ho messo in appresso, ho acceso questo portatile e avevo sentito le persone sulle 10. Ho detto, beh, è ritornato qualcuno, perché in precedenza, in diversi anni, avevo rifatto delle prove e non viene sempre, facevo le prove, era sempre tutto quel rem e batte. Quel giorno la domenica ho sentito poi, ho detto, beh, vabbè, ci saranno un po', ma negli altri giorni no. Allora ho iniziato a accendere anche negli altri giorni, ho iniziato a sentire, e poi sono fatto qualche break, sono rientrato così, diciamo, il primo l'ho sentito è proprio già meno per lungo. Figurati, ma è anche bello, dai, quando si sta così, ci si scambia così due chiacchiere, ma è anche giusto che sia così, Pierpa, perché molte volte noi ci attacchiamo alla scusa del lavoro, no, che devi scaricare, ma non è manco quello, è giusto per sentirsi anche. Ci si confronta, due parole dici tu, due ne dico io, due ne dice l'altro, ci si passa l'oretta e manco te ne accorgi. Perlomeno io quando termini così di modulare, so che ti sei fatto la chiacchieratina, e delle volte non nego che impari tante cose nuove, e quelle cose lì ben vengano, mi Pierpa, sempre in assoluta tranquillità come siamo qui. Capa, io sto dicendo ancora, Giuseppe, io penso che l'ho riconosciuto la voce, siccome siamo stati anche in un'associazione, dove c'era anche una sia, l'ho riconosciuto, a meno che ha riconosciuto. poi gli ho dato un paio di particolari, l'ho fatto ricordare, si è ricordato anche lui. A lui a me non mi aveva riconosciuto. Figurati. Vabbè, che poi Gianni quando è in modulazione è inconfondibile la sua di voce. Ma io difficilmente dimentico le voci anche verticali, no? L'ho riconosciuto subito al volo. Ho detto, ma questo è Gianni. E allora gli ho detto un paio di particolari, ho faticato un po' a farglielo ricordare, ma poi nel particolare che ho detto si è ricordato. Figurati tu, io che ho riconosciuto subito, senza che scendesse dalla macchina, è stato Gianni Caprilue, uguale, la voce come quando modula, sono sicuro che ce lo sento, anch'io non lo conosco, non l'ho mai visto, sono sicuro che sono vero anch'io, anche in mezzo alla gente lo riconosco, la voce, se parlo lo riconosco. Infatti sto dicendo è uguale, io me lo guardavo incantato, uguale, preciso, identico a quando è in modulazione, poi guarda, era una simpatia che non lo so, poi una persona molto, molto calma, pacata, cioè sì, è anche è così nelle, diciamo in verticale come quando è in radio, no? Io, come hai detto giustamente tu, se tu lo dovessi trovare, che ne so, in un bar pieno di gente e lo senti parlare, ti giri e dici, quello è Gianni Caprilue. Ma sicuramente, perché mi è capitato di individuare altri senza che mi riconoscessero. Cappa, poi soprattutto voi che adesso avete le orecchie buone e che cioè gente già ad una certa esperienza qui in frequenza, mi stai capendo Pierpa. E lì sia in radio che in verticale, cioè li beccate subito perché l'orecchio l'avete già fatto. Cappa, ma figurati, io ero tantissimi anni senza sentire il Natalino. Come ho sentito la prima volta, senza neanche dire. No, niente, dopo l'ho sentito, ho detto che questo è Natalino Alfa 1, perché la voce mi è rimasta sempre impressa, capito? Sì, qui l'unica cosa, anche il segreto, diciamo, dai, per quello che mi avete sempre detto voi, è ascoltare e farci anche l'orecchio, perché vuol dire tanto. Io ad esempio, come è successo stasera a tuo figlio, sono stato più di 10 minuti parlando io, no? E per fa, sai, ti stavo dicendo, ecco, poi dove sei Antonio, se scocciate mi ha detto, Giuseppe, sei 10 minuti che stai parlando con lui, però non sono Pierpaolo. Oh yeah, Miguel Nemico vi ascolta, Miguel Nemico vi ascolta. Ciao Natalia, beh, mi ha caricato, sì. Cosa? Cosa Giuseppe? Hai caricato, sì, la pappa, mangiare, miam miam miam. Yes, yes. Stiamo parlando di cose brutte, Natale, stiamo parlando di cose belle. Ti ricordi là? Già stavo ascoltando. Ero al computer ma stavo ascoltando. Ma in una mano non avevo più riuscito a bucarla, bisogna me la poteva lavare via. È inutile. Ma mi ha mandato il manuale e non mi ha ritenuta. Sarebbe ritenuta? No, il manuale non mi è arrivato. Me l'ha mandato in coso, in su Messenger, però mi è arrivato l'email, però non c'era nessun allegato, c'era solo un allegato dello Zemino. Accontento di Riccio. No, grazie sua, quando è stato la Fantareggio. Ciao Antonio, vigliacco che non sei altro, affetta con suo, siamo sempre 1-0 e bombolo 1, tornato 0, ma ti già ti biglio da buon contropiede che devo far entrare alcune riserve che ho in panchina. Giuseppe! Avanti! Non sai quante volte ci scambiamo il mic, oppure direttamente una volta due, c'è gente come te che parla sempre con me. Ma ci credo, ci credo. Gianni mi dice che la tua è più, adesso non mi ricordo che termine ha usato, no? Ma cioè della serie più, secondo me, più forte come voi. Infatti io ci casco, tra te e tuo figlio, boh, per me, ti ripeto, io dei 10 minuti va vedendo, no? È tuo figlio che salva il gioco, e lui in chili con tuo maco, no, Pierpa, è bene, tutto a posto, a che ora arrivi a casa, sei ancora giù al lavoro, hai compreso? Mi faccio generale, senta, tu sei tre, no, io ti riconosco, bomba, subito dopo ci hai cascato, perché dopo ero io, realmente parlando, che tu sei sceso, ed ero io, non vero che non fermo, lei ha detto, tu, bomba, e dopo di un po' l'ho fatto, e tu, ma hai visto che ci casca anche tu, allora che non mi hai riconosciuto. E figurati, perlomeno io qui nel, sia in BM che qui a casa Pierpa, perlomeno anche io le voci le sento uguali, forse perché non ho qualche, non ho l'altoparlante qui, io vi sento nell'altoparlante dell'apparato, però per me sono proprio uguali come voci. Stasera, 10 minuti in chi vi va vedendo con Pierpaolo, Bobo, Antonio, vieni fuori un attimo. Vigliacco. Paolo, di tutti. Io non di certo, sta tranquillo. E come altri bloccati sgamo subito. Via, adesso ti sto il cielo. Non te lo ricordo il primo periodo che ci siete cascati. Addirittura sì, no, una delle prime serie, così là. Ciao Giuseppe, stavo chiamando Massimiliano e chi è entrato e ha abbozzato subito la questione. Ci siete cascati tutti? Avete sbagliato, io non sono cascato con mai con nessuno, non ti preoccupare, chi non mi sembra chiusi a me. Puoi cambiare tutti i baracchini che ti pare ti piace. Intanto la sera è convinto anche tu di stare a parlare con Massimiliano, invece ero io. La prima volta fregato anche a me, buonasera a tutti. Luzzi 1 mi ha chiamato Massimiliano. Buonasera doppio rumo e ben sentito, avanti. Buonasera a tutti quanti, dai. Ho detto la prima volta fregato anche a me. Ah no, è vero. Già, la prima voce. Quando avevo fatto Massimiliano, ho fatto Pierpaolo e io ho fatto Massimiliano. Avessi ti senti parati. E ti dico di più, bisognava tendere l'orecchio bene e poi in seguito per capire chi era uno e chi era l'altro. Poi, vabbè, una volta fatto l'orecchio riesci a percepire chi è uno e chi è l'altro, ma all'inizio è stato un po' dura. Come che mi hanno fatto un momento tipo un attimione e no? Cosa, dottori? Ti vi porto un bidone a tutti, mi porto Alessio, e se voi vi porto come te ne ho fatto una di chiamassona, io vi dico la mente, gli buva vibba. A Cile, stazione di Giovanifi Garù, domani. No? Sì, no. Una volta siamo andati a Alessio, a Pantanona, ho legato un pezzo di lenza all'antenna, io tiravo la lenza per fare il QSB e lì mi abitavo in spagnolo, molti di giocare giù di. E vabbè, un vecchio gioco quello lì. Sì, in effetti anche io qualche bidone l'ho preso, io lo ammetto, no? E qualche bidone me l'hanno fatto anche a me, specialmente all'inizio. E ti ricordate quando l'hanno fatto a me con la macchina? Sì, vabbè, ma sono cose che se quando ti fai l'orecchio non riesci a percepire, una volta che poi ti fai l'orecchio... Diciamo che ci sono degli apparati che ti fanno la voce un po' diversa e cose, però se tu ascolti bene la prima che è quella. Cappa, io adesso mi sto registrando la voce di Pierpaolo e la voce di Antonio. Mi posso avere la fotografia, così non ci parlo più 10 minuti con Antonio dicendo mezz'ora mia, e davvero convinto, allora sai Pierpaolo sicura, no, da voi te lo dizendi, no, anzi ti volia dire, e da voi 10 minuti, Giuseppe, però stavi parlando con me, no, con Babbo, cazzo. Sì, basta fare così, bisogna farsi un po' l'orecchio con le modulazioni, poi le riconosci. Bisogna farsi l'orecchio, bisogna farsi. Addirittura riesci a percepire anche come premono la portante, l'importante c'è il suo... Il suo tipico rumore, riesce a percepirla. Avanti. Perché non ti metti una colonia esterna e una colonia piccola esterna? Ci stavo pensando per... però non... È che qui ti sto dicendo, già è con l'altoparlante del baracchino, perché poi qui ho la bambina che sta a giocare e gironzolare, delle volte non metto le cuffie perché, ma non lo so, forse anche un pochino di pigrizia, sai, perché magari con le cuffie sarei riuscito a smascherarti, Perché con la colonnina riesci a percepire meglio K, su quello posso essere d'accordo anch'io con te, quello sì. Ma adesso vedevo, ti ripeto, ancora sono un po' così, sto aspettando l'estate, quando sono in ferie, perché niente di strano che un'altra sortita sul tetto me la faccia e farò sicuramente delle modifiche qui, in maniera che abbia un attimino più di privacy e di quelle storie lì, Antonio, hai capito? Capo, come mi hai chiamato? Antonio o Pierpaolo? Una delle due, allora va, pigiamo o Pierpaolo Antonio. Hai visto i tranelli, cazzo, proprio gli sgambetti fatti al buio quelli, cazzo, giusto, ma sei Pierpaolo, mi pare troppo calma la voce, guarda che vigliacco, vigliacco, cazzo, 2-0, ma non fa niente, tranquillo che mi rifaccio. Ma se parli calmo a volte fotte anche a me la verità, perché se parli solitamente tu a te ti riconoscono perché questa voce è ruda quando parli all'apparato, fai cavarra, invece Antonio è più calmo, ma se tu imiti Antonio parlando, nel senso che parli tranquillo, è difficile percepirlo. Adesso ti dico una cosa, siccome l'altro giorno, tu sai bene, ce ne ho due, abbiamo parlato, uno la postazione, l'altro con gli stessi apparati, solo che uno la parte con l'altra, e tutti sempre per qua. Poi esce una bomba con l'apparecchio, non l'avevo ancora sentito, sta sforzando. Sicuramente qualcuno che ha qualche problema intestinale, dai, ascoltate, riprendo io un secondo, dai, per salutarvi, perché io domani faccio la levataccia, dai, si fa la discesa giù a Cagliari e io alle 3:30 mi alzo. E niente, dai, ci si sente alle prossime, una buona notte a tutti e un buon inizio di lavoro a tutti voi per domani, dai, magari ci sentiamo chi c'è e domattina presto in frequenza, dai, oppure chi riesce a beccarmi al ritorno da Cagliari. Buon proseguimento a tutti, dai, qui sul 21, ciao. Ciao José, buon lavoro per domani e buon viaggio da tante cose. Avanti, Capo Giuseppe. Buonanotte, buon tutto, buon lavoro per domani, dai, buon viaggio, ce ne ascoltiamo tutto alle prossime, ciao ciao, avanti, sotto chi tocca, Natalino. A me tocca, dottore, ti sto invitando, signore. Ciao Giuseppe, dai, ce ne risentiamo domani alle prossime. Tante carte tardo tutti, ciao Giuseppe, se mi hai ascoltato, buon tutto. Avanti Capri 2. Ehi, ti sono ritardo, signore, anche l'elicottero ho fatto, non vado di senso. Ciao Giuseppe, se mi stai ascoltando, buon tutto per domani. Comunque venti. Per fare prendi, c'è un Natalino, c'è un Gianni, tutti gli amici che sono su 21, anche quelli che non so che ci sono. Ciao, va positivo. Boh, se stavi chiamando prima io non ti ho sentito, Non so se ti avevo sentito gli altri, io no, non ti ho sentito. Comunque buonasera Capri 2, ben ascoltato, oggi Gianni. Ciao Gianni Capri 2, ben risentito, dai, buonasera. Ma mi dici quello che stavi facendo per la gara? Stavo evitando, ma non ci riesco perché è confondibile Pierpaolo. Allora, giovedì sera qui, alla nostra sala, serata di fisa, ci sono, c'è la palmata, se volete venire siete i miei gradi. stato poco ieri in casa, perché me l'hanno preso Giuseppe. I nonni, perché c'è il nome di papà, e da piccolino c'è sempre rimasto sempre la mamma, e gli ho passato al telefono. Grande serata di Pallolicio, capito? E così c'è da mangiare, da bere, e ti vedi che buona è di tutto. E infatti fosse stato un sabato, magari ci sarebbe potuto anche fare, capito? Ma non lo so che anche la è questa roba, forse. Andavo a ballare, facevo rientrare a casa, la volta per andare a lavorare. Sì, ma la caliva a me si cuore. Ma mi fa bello. Ma la caliva io hai, dice, e la caliva, però tu già vieni, tu non hai figli. Non lo so già, non lo so se posso venire, giovedì. Perché venerdì c'è un altro impegno. Bisogna vedere. Ma sono un paziente, io mi tappo, mi voglio prendere il cuore, perché io sono fatto così, se non vale le cose a uno gliela dico, in barba gliela dico, cioè a me fa piacere se venite, siamo un po' assieme, tutto lì, riprendi già. Gava, io ti rispetto. Può darsi pure, se veniamo non ci tratteniamo più di tanto, se decidiamo di venire un salto magari ce lo possiamo anche fare, ma se di domani si lavora un casino, le ho fatte da ragazzo molte cose, adesso non me la sento più, stasera c'è una stanchetta che ho dormito come una pietra sino a quando sono entrato. Già, me lo posso immaginare perché io, diciamo già, non è che faccio un lavoro adesso pesante, è quel lavoretto così, che mi impegna, hai capito? Però, quando una persona, quella stanchetta riviene, perché abbiamo anche una certa età, che non ci abbiamo più vent'anni, però anche Pierpaolo fa il suo lavoro, io mi so che ha attaccato una certa ora e come è fatto, e ripeti che fa. No, per me c'è già un accordo, se diciamo se una cosa che se andiamo anche le 10:30, per me potrebbe anche essere fatica, intanto è sempre quell'ora facciamo, ma di più no, dopo quell'ora non mi devo andare. Infatti, ma non so adesso se è di pomeriggio, ma penso che è la roba di pomeriggio, capito, di una certa ora esistiamo, quindi a quell'ora, perché anche l'altra gente si fa la fuori, quindi l'orario non lo so, è venuto questo medico della Prologo, gli ho parlato, io hai capito, ho gettato la patata a Polenti a mio figlio, che lui è municipio, io non ancora più, non so, ma toccarla più la mia moglie, pensavo in un periodo andavo io a fare queste cose. E comunque l'orario penso che sia il giovedì grasso e roba di pomeriggio, poi si protrae, capito? Ma per quell'ora lì diciamo, se siamo lì e non ci rimane più nessuno perché la gente il venerdì lavora. Riprendi Natalino. Allora, riprendo la mano qua da letto, io vi saluto tutti che è tardi. Ci sentiamo, ciao a tutti, anche quelli che ascoltano. Salutiamo pure te. Ciao, Tani, buonanotte. Ciao, Tani, buonanotte, ce la rispondiamo domani, dai. Ciao, Tani, buonanotte, ce la rispondiamo domani. Ma Tanino, buonanotte, ce la riascoltiamo tutta. A domani noi ci sentiamo anche in mattinata, in quanto, hai capito, coincide il mio lavoro a fare anche la mia mattutina. Ok, ciao Natalino, buonanotte, rimetto il cambio a Gianni Lucchio. E si può vedere, capito? Se per venire lì e la festa è finita non ci veniamo. Se lì dopo pranzo, capito? Perché lì allora mi viene male a me, a più qua. Ma fosse una cosa che inizia la sera, verso le 9:30, così con Pierpaolo ci possiamo trovare dopo che ci facciamo la doccia al lavoro e faccio il salto. Sì, quell'ora penso che sia, adesso io l'orario non me l'ha dato, hai capito? Aspetta che tu mi schiami. Thank you. Una trattoria a Sars, eh? No, no, del posto, di bene penso, di un po' che va di anche se è una morta, amica. Gente che guardano in faccia, andare culo su un uomo di culo. E invece Fabio, abbiamo fatto amicizia già, ci abbiamo ancora amicizia con proprio con la gente, io figlio parola, gente anche grande, però anche con più terra a terra, perché qui siamo di passaggio già, e quando moriamo, mi ha detto mio figlio, lasciamo tutto qui. Bisogna fare dal più piccolo al più grande, hai capito? Molte volte bisogna stare molto col più piccolo, perché la gente sta veramente con difficoltà al buio, già faccio, non vi dà problema, no, qui sono di passaggio in questa vita, non mi chiede un cellulare, mi prendi che fa? Senta, papà, volevo dire a Gianni che ci classificano tutti i pastori. Ebbene sì, ben che vengano, viva i pastori, viva il loro lavoro sacrificato giorno e notte, festività compense, viva, è un lavoro dignitoso che non ha niente da invidiare nessuno sul lavoro dei pastori. Io sono la parte dei pastori, sardi e non sardi, viva il loro lavoro e viva la loro vita. Io infatti l'ho detto, senza nulla togliere pastori perché è un lavoro dignitoso, però loro ti presentano così quasi per sminuirti, capito? Manca, qui non devono andare a discriminare che non siamo ignoranti come pensano loro, perché mio figlio mi ha fatto vedere roba a gente che ha studiato con professori di Roma, roba che anche non andava in quella metria musicale della di ragionare come il mio. Anzi, io ci tengo più alla persona semplice che quella che quella toloccata e coso che c'è la puzza sotto al naso, la verità. Sono fatto così anche perché le persone semplici sono piene di sentimenti e di cose, le persone che non hanno né problemi né sofferto né niente vedono tutte le cose in modo diverso, capito? Non hanno nessun sentimento, pensano di giocare di là e basta. Io ti ho sentito già ieri che hai fatto una cosa che gira mi è toccato nel cuore quando hai detto che hai sentito quello dalla Germania facendo il piede, capito, che è italiano, che queste cose, anche che già io invito una persona che sentirete a chi è che non le fa finire il cuore, non lo vuole chiedere. E poi ha gridato, Italia, Italia mia, quanti anni so che non vengo da te. E già quelle cose che toccano, magari ce la dice a qualche uno che già non gliene frega nulla, però quella gente che è andata fuori per il bisogno, per affrontare una situazione economica, perché qui non siamo messi bene. Hai capito? E molte volte poi rientrano, che uno c'è stato tanti anni, che non vedono che c'è i cuori che si fanno questo di casa e lui dice, non ha in mano le chiavi, perché allontanarsi dal proprio mondo, come quello del caso di Sassarisi, di Sassari in Cartolina, quello anche lì c'ha una logica, perché guarda, se a me mi commuovono queste cose, fa come si chiama, che tu trovi la classica canzone di un fraiola, c'ha un come si chiama anche di un sentimento quella canzone che canta lo Sassari in Cartolina. Niente, però gente che ha sui nari e che deve stare sempre bene, non gliene frega nulla, ripeti che mi hanno sempre trattato bene. Sono quei signori di giacca e cravatta che mi hanno trattato male. Lo so, Pierpaolo, sai, io ho fatto meglio, anche difeso, o anche difeso molte volte, e poi ti pigliano a pesci in faccia, come quelle tante che io ho. Io ho difeso i miei, erano in commissione, non lo so, poi se lui era ancora più grave, anche il mezzo andare in giro, senza questi servizi. Però ho sempre guardato quando ho avuto un posto di fare l'interesse della vita, hai capito? E niente, mi può distogliere dalla mia onestà, dalle mie cose. Hai capito? Da ieri ero davvero questo a Pomponio dopo tanti anni, ero anche un po' commosso, un po' commosso, vale, dove non mi dico che vale. E le passano per tutti. Comunque una persona splendida, una persona, io faccio le mie battute, le diamo frequenza, che mi devo sempre tanto di cappello e tante tanto di rispetto per Antonello. Riprendi che fa. Capo, anche una persona semplice che è un amico, hai, andiamo bene. Alle volte ci si vede, ci si scherza, però tutto sommato è un amico, lo vogliamo bene, mi vedi già. Vabbè, comunque, diciamo che le persone, come ho detto poco fa, le persone con le giacche a cravatta per qua sono prive di sentimento, l'ho sempre detto io. Con le giacche a cravatta, oddio, con le giacche a cravatta possiamo stare anche noi, tranquillamente. Quelle proprio che hanno la puzza sotto al naso, io li chiamo così, hanno la puzzetta sotto al naso che ogni cosa non gli va bene, ogni cosa qua, ogni cosa là, e pensano di avere il mondo in mano e poi è la prima occasione si sciara. E così è già, è così, io ne ho di roba se voglio, lei molta gente a Cagliari quando gli esante. Come si chiama dell'autotrasporto lì, nella vita può essere di più, anche a un soggetto lì può avere, poi io ho detto muoio povero, anzi se muoio come un barbone siamo andati in una tesi, non mi chiede nulla, guardare, posso fare ciò, un guardaroba enorme di quello che posso anche far vedere con la ciò, sto sempre vestito, tanto sto poco grasso da un momento all'altro, mia moglie perché non ti cade, mi chiede, c'è le cose fai non te le metti. Qualche volta si è quando le mulini a dirsi come si chiama quando andavo e come si chiama quando ero con quelle persone nato, la dovevo fare così, zitto, però non mi interessa più di tanto già, hai capito, sono una persona molto solitaria, non vado al bar, non vado, però quando vado fuori di qui con di sera siamo andati al bar con le persone che dico io, che sono seduto a tavolino, hai capito, se incontra voi è così, però qui nel paese non mi faccio vedere, hai capito, frequentatore di una copina di caffè, di cose, perché se io mi trattengo già a stare seduto al tavolino vengo subito criticato che sono una persona, dicono che c'è un servizio pubblico che sta al parco e quelle cose escono fuori. E ben lì, e poi se mai con la gente mormora, non voglio altro che avere l'occasione per criticare. E poi fai il riso alla politica, hai capito? È riso molto dagli anni 50 il riso alla politica, ma è una politica anche pericolosa già, perché qui riescono a fare disicciare, se si mettono anche dentro qui casa mea in casa e mettono la casa su pura a farti disicciare proprio per la politica. È sempre stato così il paese convertito. Lo conosco bene, che ho 50 anni, che ho abitato sempre qui, ho visto tutto andato e capito, quindi ne rimango fuori. Buongiorno, buongiorno, rispetto e voglio rispetto, chi mi rispetta io lo rispetto, chi mi rompe le cose ma parto in quarta subito. Io sono fatto così, riprendi che fa. Non so, comunicare sempre qualche cosa perché riguardano un po' troppo gli altri. Poi, vabbè, non sono tutti i paesi così, ma la maggior parte dei paesi in quella stanza lì sono così, infatti ho sbagliato le battisole, ma purtroppo esistono ancora queste cose, oh Gianni, non ci siamo fa niente. Infatti una persona come te lì è certo che è vista perché sanno che fai quel mestiere lì e quindi avrebbero da criticare. Certo, molte volte non ci si pensa anche, non ci si pensa a queste cose, che la cintura è pensata. Così no, e tutti lo sanno per far tutti. Fuori dal normale, pure. una britta io. Mi sono addormentato come una pietra, e come una pietra mi sono alzato tutto a dolore, tutto. Sembrava che avessi garrato un gran tono. No, è 7:30, ti ho chiamato lì. Ti ho chiamato alle 7:30. Quando sono entrato era molto più tardi, mi sono svegliato tardi. Mi chiamavo prima, non è parlato con me, mica. E allora, buona, non ho sentito forse perché in cuffia. Probabilmente è quello. Se no avrei risposto, già lo sai. Gava. E perché l'ho detto alla radio, scusa? Perché quando mi stavano rispondendo mi sono andato e invece non c'è più la radio. Però 2 minuti prima era la radio con me. E praticamente quando ti ho detto che non era più Antonio, che ero io, e ti ho chiamato al telefonino, poi ho riacceso la radio e non c'è più. Perché mi sono andato per mangiare? Capato, vabbè, non fa niente. Era che mi volevo fermare se volevi uscire un attimino, cioè un'oretta così ci ho fatto la chiacchierata. Se me lo dicevi magari già sarebbe finito, cioè se me lo dicevi, se avessi sentito. Gava, via. Comunque, Caprino, lo sai cos'è? Adesso per andare a votazione, che ti chiedono il voto, poi se tu vai a chiedermi qualche favore, ti dicono sì e poi fanno no. Sì, perché come si chiama? Perché il paese piccolo, hai capito? Qui, diciamo, quando i sondaggi fanno, hai capito, ma è troppo il movimento, si nota subito, siamo 4 gradi, però non deve essere così, qui sono ancora già forti, forti che durano da prima di nascere io, c'è un libro su Muros, si parla anche della cultura di tutte le cose del paese, ma si parla anche della politica, che lo chiamavano all'epoca orgoglioso il paese, e niente, si è visto anche sulla cronaca dei quotidiani, proprio per quelle cose che succedevano nel periodo elettorale, capito già? E non va bene perché bisogna stare tranquilli, se siamo 4 gradi, siamo in passaggio, quante volte devo arrivare anche, perché qui devono fare gli spetti alle porte, alle cose, a fare tante cose che non vanno bene già. E non andrà bene ognuno, perché io non so dove è andato a fare male a nessuno, non ho detto bene ai miei figli, però c'è gente anche più grande che non lo può fare lui, il rispetto e male ai figli, capito? Allucinante. Sembrava un paese abbastanza tranquillo, mia nipote si è messa pegolata in un brutto guaio allora. Mia nipote si è preso la casalina, la zona nuova, già te l'ho detto. Una casa bellina, non è tanto grande, ma per 2 persone va bene. Ma già, tua nipote ce l'ha poco, questa tua nipote non verrà mai messa lì, come si chiama, nel pentolone. Perché diciamo sui genitori non abitano come a Muro, qui a Roma ci sono ancora i vecchi da proprio dagli anni 50 e capito, viene trascinata anche la gente che ancora non è nata in queste cose, è così qui, ma se tu di quale famiglia sei, tale famiglia, tu sei il nipote di questo, sei il figlio di questo, hai capito? E molte volte anzi giocano anche in carte che riescono tipo un palazzetto a pigliare da una parte a portarla nell'altra, però sono cose che poi verranno ancora più, tutto questo gioco qui fanno, però tua nipote già deve stare per quello che mi stai dicendo tu, per quello è un paese tranquillo, perché proprio non sono molisi e non c'entrano in queste vicissitudini, e quindi che fa? Addirittura lo chiamo un piccolo orgoglio, eppure non ho mai sentito che era un paesino così, anch'io mi immaginavo voi con i paesini piccoli dove ci si l'ignoranza. Perché io dico, uno può essere comunista o anche fascista, essere amici lo stesso, nello stesso modo. Anche perché un amico deve anche rispettare le idee dell'altro. Se a me Pierpaolo mi dice, io la penso così, io non la penso così, dico no, io la penso in questa maniera, però non per questo ci dobbiamo scannare perché la pensiamo diversamente, non è giusto quello lì. E poi lì si tratta proprio di generazioni che si toccano, naturalmente se a te ti toccano a tuo nonno, ti toccano a tua madre, è ovvio che tu ti giri normale. Infatti c'è certa ignoranza. Non c'è l'ascensore. vabbè, magari non stava quel peso, magari l'ha fatto in truppo. Ma cosa tu? Era stato di portare se ciao già. Ciao, allora la coppa in capo di voi. Civile è successo anche a me, ed era l'orario delle visite, ti puoi immaginare come nell'ascensore tutto pieno. Come si è bloccato l'ascensore, questa donna dei paesi comincia a respirare in una maniera, ha detto signora, quale deve, si deve tranquillizzare, perché si deve respirare così, togli tutto quanto l'aria agli altri e non ci lascia aria per respirare. Da quel momento lì si è calmata, le ha detto apposta per calmarsi, no, per capita. Mamma mia, tutta ansante, capito? E poi abbiamo suonato il coso e sono venuti i pompieri però a liberarsi. Non sai già che noi eravamo già quei fatti, se si tocca magari che non è arrivato al buon, come si chiama di sopra, che non prendeva il cellulare, noi abbiamo chiamato i vigili del fuoco e secondo come succede, hai capito, perché se non suonavo anche l'allarme, niente, non motivava nessuno, comunque, nonostante tutto già, ne siamo usciti poi. Richiuso è rimasto pure, abbiamo provato ancora bloccato e quindi è la roba la vigile del fuoco, se Giuseppe non sarebbe riuscito a aprire la roba la vigile del fuoco o se non sarebbe stato al piano giusto che avrebbe richiesto anche noi. Riprendi Antonio, buonasera. Io buonasera, già stava un mese Mariano questo ascensore, ho chiesto il problema, mi ha detto che c'era la roba di pressione di olio. Dice però, dice la parte, dice non ce l'ho più io e adesso mi raccomando, me lo guardo, vengono e ti tirano fuori, capito? Quindi, la fregatura, ma io ho detto, ma cosa può essere questo problema? Avevamo detto, mi fatto forzare, io ho detto, e si è bloccato così. Come la bomba, gli ho detto, che questa abita sempre in America. E poi ho detto, non ci ha fatto mai col cane. Invece stamattina, come è suonato, sono tutti la di figura. Probabilmente erano tutti fuori, magari a quell'ora erano tutti usciti e non c'era nessuno. Sai che in questo periodo vanno tutti quanti carnevali di tempio, carnevali di qua, carnevali di là, sono tutti in giro sempre. Comunque è una cosa brutta perché io l'ho provata in negozio. Allora avevamo il campanone lì a Porta Autore, vabbè ci aveva tuttora, ma è affittato adesso. Fatto sta che ne prendevamo, io facevo il turno continuato, lo facevo dalle 7 alle 2 o dalle 8 alle 3 e poi la sera ce l'avevo libera. E l'unica cosa che c'era è che noi avevamo le chiavi in orario che il negozio era chiuso, andavamo a scaricare, preparavamo già i camion già carichi. Allora di scaricare quando chiudeva il negozio noi entravamo, avevamo le chiavi, aprivamo il negozio e entravamo dentro. Scaricato tutta la roba, ho visto che c'era della roba che avanzava, la volevo portare in magazzino, c'è un montacarichi. Prendo un montacarichi, si blocca questo montacarichi, il negozio non c'era nessuno. Tu immagina la mia paura. Quando dopo mezz'ora che sono arrivati le donne delle pulizie, non nemmeno perché io avevo il compito di far entrare le donne delle pulizie, quando arrivavano le qui all'apertura se ne andavano, sono arrivate le donne delle pulizie e meno male che avevo lasciato la porta aperta, loro sono entrate dentro, avevo lasciato la porta aperta perché stavo scaricando, era su chiuso e basta. Sono entrate dentro e mi hanno sentito, perché aprono qualcosa che fanno, vanno a riempire i secchi, il bagno era vicino all'ascensore, quindi. Mi hanno sentito solo al campanello e ho detto Gianni, ma tu ci sei dentro? Sì, chiama qualcuno, sono più di mezz'ora qua dentro. Quando sono arrivati vicini del fuoco mi hanno trovato tutto spogliato, perché ero tutto sudato, tutto era un bagno di sudore, dalla paura, poi non si respirava perché anche gli ascensori liquidi, i montacari chiusi sono tutti in ferro, non hanno manco preso l'aria. Figurati. Rosaretta, no, qua meno male già siamo andati bene. Purtroppo mi è scappato la risa, ci è toccato proprio adesso, ho detto che siamo stati noi, ti sei imparato nel corso, gli ho detto. Cazzo. E una cosa vada da ridere, no? Allora come ci siamo riusciti un po' caretto. Ok, ti metto a Gianni. Che eravate tu? Caprilù e Stefano e Giuseppe, così. Eia. Allucinante. E come avete fatto, Caprilù? L'avete sforzato? No, Giuseppe ha aperto le portiere, erano leggere, capito? Quindi si potevano aprire, solo che io non ci ho pensato perché l'ultimo, io da una parte avevo lo specchio. Quella è con le bifette in mano che mi ha legato Giuseppe, gli ho detto buon provate, ho detto voi dovete quello che si può fare. Infatti Giuseppe ha provato, abbiamo saltato e siamo saliti. Quindi si è fermato più su del piano, così è. Nell'ultimo piano, così è. Che bello, c'è solo altro per terzo. E quindi è una cosa buona, fuori dal normale, proprio ti può fermare più giù ma più su, no? Perché se ci fosse stato più peso ti avrebbe fermato più giù. Quindi non è questione di peso, è questione che qualche cosa non ha funzionato bene. E la volta che si è rotto il sistema frenante l'ascensore lì a corso, all'ospedale civile. Se fa la donna. Figlia Silvia me la vuoi, ma fa attendersi, e invece non c'è cosa della palina, quello ti me deve fare. C'è un po' portato il contratto al politico da conta delle batturate. Io me lo vediamo oggi il punto delle fratture, da lì metti sbatti la testa sopra. Sì, il contraccolpo, non so se tu l'hai mai preso il contraccolpo, ma io sì, perché avevo un amico che aveva una barca, una pilottina, ed era un pazzo di danno, saltava sulle onde e poi la barca si alzava e poi scendeva di colpo. Anche se tu avevi piedi in terra del tenuto, come prendevi il contraccolpo, ti ripercuoteva la spina dorsale. Sono stato quasi un mese che mi facevano male la spina dorsale con la bomba. E quindi chi è agiati i colpi? E Gianni me la mai a sapere, c'è due piani che hanno bisogno dell'ascensore. I Gianni Caprilue? Caprilue è andato giù il tipo. Ti auguro buon lavoro per domani e buon corretti avanti Alessia. Minacciamolo e a pace sentiamo. alle corse che comunque mi tipo tutto. Gianni, l'unica cosa che sta di sfortuna che secondo te non dice quello di sicuro la propria che vuole i pompieri a far sopra. Ciao Pierpaolo, sono quel tipo tra Marco per le ali e purtroppo ha preso le dici. Ok Gian, come il segnale, sempre lo stesso che sono arrivato lì. Eia. Però stesso Gaffredo, adesso anche la radio è buona. Mai, mamma mia, cosa stavi combinando? E va bene già. No, adesso sì, sì. Ieri è che non andava bene, va bene. Ieri l'abbinamento che stavi facendo non fungeva. Stavo abbinando questo macchina al tavolo sul Cosat, ma si vede che non si è andato. Ma non è che quel Cosat c'è qualche valvola audio da cambiare, no? Ma anch'io ancora. C'è Antonio. No, non credo proprio, penso di no, perlomeno io. Mi sembra chiaro una cosa, ma se prendi un microfono e guardaglielo e vediamo se va quel comitato, non c'è problema a controllarlo. Piacerò, stavo modulando, ce l'abbiamo modulato con cosa, sta oggi a me. E allora, se sta funzionando, quindi vuol dire che gli abbinamenti tra un lato sono diversi. Capito? Non mi ha chiesto stasera, mi ha parlato stasera, cioè che deve cercare lo schema del tuo, così almeno te lo sistema. Se è fattibile il tuo sistema, se c'è, capito? Di quel come fate che c'hai da mettere le bobine a posto. No, insieme ce li ho, lui non ce li ha, che è questo? Lui li ha, in questo momento lo schema non ce l'ha, comunque te lo procura su internet. Lo schema del... tu c'hai il 25B, giusto era? C'ho anche lo schema, del 25 di tutti i multipli, ne ha fatto un multipli di 25B. Io sono la scala dei 25B anche la 35B a noi. C'è un sito di radio a noi. Ma fai un sito di radio? Stava sparendo da poco fa, io pensavo ci fosse allo 80. Nada, solo il bip esce, Antonio. Due? Cioè, il segnale quant'è con questo? Qual è il senso? Aspetta, vediamo un po', che resto scendo. Un po' problema, la sorta, non ho capito qual è, il 25 o 35 è quello che c'ha le bombine che non funzionano. Il 25 è lì, Antonio, io ho tutti gli schemi di cosa, no, perché io ho dato 35, mi sono sbagliato allora io. Ma che domani confermo il 25 allora, il 25B, lo schema del 25B. Dice il sistema di le bobine. Ma c'è l'HP2, è l'HP2 lo schema se lo vuole aggiustare. Sì, ci sono anche su internet, senz'altro. Che c'è il trasformatore diverso e funziona a 220. Quindi sono diversi uno dall'altro, va? No, ma io quelli che ho sono Cosat del 25B, Antonio. Sono Cosat del 25B, e ho gli schemi di tutti i tipi, io ho schemi, quando te li vuoi fotocopiare, vieni qui, si fotocopiano, ho un sacco di schemi, tutti gli schemi di quelli degli apparati degli anni 70, e anche dei recinti, tranne del Maio. E poi se c'è sotto qualche altro nome me la dicono pure. Capito? Del cosa c'è lo schema. Va bene, comunque c'è lo schema dei 25 e quindi devi segnali solamente le bobine che ci sono dentro. Dammi altri, mi sembra non ce n'ero. Io fa che ci sono a comprare il valvole, non si vede, magari ci sia qualcosa che non va e basta. Sabato comunque già al limite posso sapere qualcosa, va. C'ha il coso, glielo sali, così il tuo sistema. Questo poi. Un amico c'ha baracchino che è bravo a fare queste cose, lui c'ha gli strumenti come io. No, ce l'avevo sullo scoglio, ma è andato a finire male ciò che ho girato il manulato, come è capito anche con lui da mettere a posto, no, ma che c'ha una bella guerra e ce l'ho io quasi. Hai capito, non ho problema, ma lui mi ha detto che ci aveva anche Stefano, fuori, aspettate, dammi la mente, dove l'ho messa. Aspetta, però la vista. Allora, la vista era 3 più 3, no, più 2, manuale. Poi c'è un 3 più 3 nero base, un 3 espande 500 base, uscire 444 base, un 1,390 che è un del 6, un trasvetto 45,11, cioè 11,45 per sapere. Poi c'è una capito 102 trasvetto 4, un midrando, trasvetto base, 78, 574, 40 canali AM e SSB. Poi c'è il Chris, 23 canali, stazione base, sempre a Barbara più Porfeo. E c'è anche il motore 78 V e U, portatile. Ascolta, ma sta vendendo questa roba? Ma avete parlato in due. Detto Stefano, la sta vendendo questa roba? Sì, la sta vendendo. Per il tanno di più 3, quello nero che cosa vuole, quanto vuole? 50 voleva. Vuole la mia mia come quello? No, aspetta, prego, calma lì. Quello lo voglio io, quanto le diglielo che lo voglio io, il tanno di più 3. Se è buono, buono. Vale, quello ce l'ha. Allora spande 500, non so se 500 è buono come cosa, un microfono. Ma è feo come stigia. A me mi piace di più il Turner più 3. Ma perché sono Gianni, viene a tirarlo a giovedì, quindi poi c'è lo sciude se non vuoi. Ma vabbè, vabbè. La promessa di Gianni già è una 50, dice microfono. Ma io non funziona già, c'è Roma non funziona, hai capito come la storia, e infatti era la, guarda che sei attento con il Turner, secondo un attimo non ha una buona resa, lo ho capito, e un microfono già, capito, va di ripetere come quello che ha fatto l'amico mio che mi ha l'autista, è anche un bravo musicista, cantante, eccetera. mio padre l'ho conosciuto al nido io a lui, solo che io ormai già sto diventando di bambino e non mi ricordo più nulla, perché come sono arrivato però subito il flash, questo lo conosco, e mi sono anche presentato di nuovo, poi gli ho detto a Torello, quando mi sono faceva l'autino di quello qua, e allora lì è saltato lì, il pallino di questo lo conosco, l'ho avuto un tale posto. E a te che è venuto a Liguria? Perché sei rimasto chiuso sotto l'ascensore, non per altri. Oh. Antonio, non è così, no? Già li perdiamo colpi. Io diciamo che non ho un po' preso da quando ho studiato quella roba dell'autotrasporto, che ho fatto un esame come un diploma di cosa, di diritto tributario, o gestione commerciale, ascensore. Io ho studiato come prendere un diploma per fare quell'esame e ho lavorato in 10 ne possiamo lavorare. Io ti ho fatto la battuta perché quando uno è chiuso dentro l'ascensore ti mette a chiacchierare me, quindi ti vede, ti mette, ma io ti conosco, lo metti un micro, ti parla, ti vede subito la memoria, per passare il tempo. Però minimamente sa che io ho capito, l'ho riconosciuto, ma minimamente sa chi sono io, perché io sono quello ingrassato, sono, hai capito, però la chiariamo lui, ma che va bene, io gli ho detto che lei già chiama lui, non preoccuparti, mi chiama al telefono, io ti faccio sapere qualcosa al limite. Già va bene, già va bene. Lui. Antonio, tu fatti riportare a casa tua queste cose, tanto tu la stanza non ce l'hai per mettere queste cose qua, e così almeno uno se ne vuol vedere le vede, no? Stanzina, ma c'è un casino, no, che scagliamo, mamma mia, guarda, se non c'è che vediamo passare tutto, perché è troppo casino, c'ho tre televisori, c'è tutta quella roba, non è che sono più la stanza, sembra un togliaio qua dentro, mi pare che sia rizzito. Sì, quella lì l'ha detto anche Simona, che la stanza per farti lavori tui, tu della gente, però lì è una stanzina che tu ti usi per fare queste cose. Dice, gli ho lasciato questa per non incasinarmi il resto della casa. No, vabbè, ma io ce l'ho anche dentro da mettermi. Se io porto l'amica dentro, mi chiudo la chiave e Simona lascio fuori, parla con l'amica, cosa me ne frega. Cioè, faccio il lavoretti lo stesso io. Faccio le sapature le canne. Perché? O no già? Vabbè. Sì, vabbè, ma quello lì sta usando come un laboratorio, non è che uno fa vedere il disordine, l'ordine, ecco, già a parte che non ho visto tutto questo disordine di cittadini. Ah no, già c'è. Devo dirmi tutto quanto lo va a posto, no? Non mi piace mai la camera così, che mi sembra un po' meglio, no? Capito? La camera a casa come si deve, dobbiamo fare un casino come pensando. Quando avevo 20 anni non sbatteva nulla, c'era anche le bottiglie da birra intorno per dire quando venivano qua a casa facevamo le cene e con il mio fratello portava la farina contro a voi, mi portava la birra, farina, lasciavo il birra e farina e vendiamo in chimico con tutti i cittadini che salivano qui, no? Non di qua non volevo fare la cosa, Gesù mi teneva paura di casa mamma. Ma pochi selezionati e non è come i delizzetti, no, che c'erano, sembravo il sindaco di Zosso, ma io. Sono 5 minuti che sono la paura, ora. Ma fa, oramai sono grande, vaccinato, sono vecchietto. Avanti, capi 2. Ok, allora, io mangio va bene. Quello santi domani avresti bisogno, io avrei ideato come si chiama, tipo dei banchi, tipo la stazione di amatore e poi la segnali debole per muoverti da un posto all'altro, capito? Avere un banco più spazioso per fare i lavori e vedi che bellino anche come c'è quella roba che ti dà quella finestra che è montata sul soffitto e quello è bellino come laboratorio. Capa, ma non ti la sede girevole, dimmelo che ci faccio a sedere a Gianni che è più alto di me, così sicuro bambù da una parte all'altra che è duro. Ah, ah. Ma per te va bene, è fatta su misura. Solo le volte mi sono battuto la testa qui. Sono qui, guarda la parte della testa. Quando abitavo con mio fratello, con Gian Piero, lui c'aveva la camera sua da questa parte e io c'avevo la camera mia dall'altra facendo il baracchino. Diciamo, non è proprio la parte opposta. Quando me la stavo a letto, una volta mi sono mangiato la lingua. Ragazzi, adesso Gian Piero lo deve mettere troppo male. Vedi proprio mamma giù. Andà bene, dai. Quindi questa antenna lì ha rinunciato. Mi ha detto che ci aveva Stefano, lo Schuller, poi che ha il microfono, tranne più due quello che ho venduto io, almeno più due uno. Lo Schuller 444, cioè la base è 1.100.6R009, con il calcolo manuale, il microfono manuale. Vabbè, lo Schuller già è bello, è 144 nel cuore. Ma nuovo, Ti dice, luce il padrotto 11.45, quindi questo va bene tra 3 anni, va bene. Si piglia la panicchio, guarda la testa, si vede, lo metti per canale con le bande laterali, se ce li ha. Ci mette il coso, no, anzi, mira 78, AM60, quello 40 canali, li mette in trasverso e se ne va in 45.20, che è bellino. Non va bene a capire se sono avanti a tale, quindi se ne vai 45 metri a parlare con uno. Ma c'è l'altro meglio, la Lisgraffete come trasmettitore, lo dai su come ricevitore, se voglio solo il 27 non fa quella roba lì, cioè il ricevitore fa, il trasmettitore non fa il 27, però il 45 va. Allora c'è i 10 metri, se non c'è il 27 c'è i 10 metri, che parte da 28. Infatti che ricambi il 4, li metti il 4 e scende il 27, questa roba 28 li metti la 27 ed è perfetta. Sì, ma però comunque è roba interessante che c'ha lui, se ne è soddisfatto, magari era un appassionato come me, poi molte volte la passione poi ti svendi tutto, è capita solo dentro il microfono, quindi interessa però la fare a colta, perché io non ho messo, non ne ho capato più. Ok, ma le cose che ce l'ho qui è bellino e riceve che in una maniera, però sai, sono apparecchio, non è che vanno sempre accesi per via dei condensatori, questo. E quella roba lì che tu che vedo che stava andando a 12 volt, stava andando a 110, Antonio, perché poi ho misurato le tensioni ed era così, 110 volt, stava andando a 110. Lui mi ha detto, dice, ma quanto va questa 12, mi sta andando, mi ha detto. Quindi quella rotatore che c'ha volumato dava 110 volts, così è. Perché lo afferro, dove non c'è nessun circuito, c'è il trasformatore e c'è solo in alternata, ho fatto del mio rilascio, nel concept c'è l'autotrasformatore suo originale, quello del mio cosa, però quello lì l'ho misurato ed è 110, sta andando a 110. Allora, meglio così, originale. Comunque anche a 12 va, bisogna trovare i cosi, bisogna trovare. Dove c'è la pellina azzurra, perché sul lo schema lo sai subito, tu è 0-12. C'è lo schema, Antone, c'è lo schema, che i due pensieri sono valvolare e lo stesso va anche a 12 volt, però ho capito, quello che ha in casa lo ha finito. Anche quello devo far vedere perché c'è qualche problema di gestione e se ne roba di condensatori mi ha detto quello da che fermi, però questo nonostante è stato tenuto bene, quindi ho visto che anzi ogni tanto lo lascio acceso anche se non lo uso, giusto perché da quando me l'ha dato lui ci ho acceso, sparava manco 4 watt e mezzo, adesso ci va sempre la puttana buona lui, te lo dicevo perché è garantita, è come Gianni, ma lui poteva avere quella cosa nuova, senza niente. Naturalmente se avevamo fece la paragrafa tutto famiglia così com'è. Però c'è roba buona, non è roba di corso. Di scatto, capito? Se ti avanti erano parecchio che funziona, come se ho provato una roba anche io, se era parecchio difettoso non vedo, se era parecchio funzionato lo no. Anche modificato la mente per dire, dico guarda ho fatto quello, quell'altro, perché a me tutti gli chiarenti sono. A me non è, quando passano le apparecchie a me, io ho sempre toccato di RCA, MCA e anche di potenza, tutti. Tutti, nessuno escluso. E allora, qui come ti arrivo con questo? Prova? Vuole segnale? No, sì. Io, ci ho sempre quello. Il baracchino tipo quello di Giuseppe, solo quel 78, però il display io è molto grande, capito? Se mi vedo il display, vedo il canale, vedo la carteggiatura, vedo Dixi, Rixi, AM, tutte quelle cose che dà. Ok, perfetto, già riprendi, cosa ti compri allora? Non lo so, non lo so. Dovrei vederlo, se lo shooter va bene, prendo lo shooter. Cosa ti volevo dire? Quello che fa meglio secondo me, anche l'M300 va bene, però lo shooter è un altro microfono. Ti dico già che lo shooter è il signor microfono, io l'ho dato, l'ho regalato a un amico, non ho rimpianti perché l'ho dato di cuore, però è un signor microfono, guarda, secondo me mi serve un altro perché l'ha adattato al contact per il semplice motivo di, capito, di non stare più provando a mettere le mani al mio che non ho proprio voglia. Perché poi se ti rifermi già, qualche cosa capita, quello l'ho lasciato con cosa perché erano perfettamente funzionati e non lo so, l'umidità fa tante cose, capito, gli sbalzi di temperatura perché l'inverno in canale c'è freddo, in estate c'è caldo, quindi queste cose le apparecchi ne sono, anche se l'avevo coperto bene tutto quanto quello che vuoi, però se Alessio mi non vede il contatto mio è nuovo come quello che mi ha dato Stefano. Stefano era un maniaco della, diciamo, degli apparecchi tenuti maniacalmente, proprio puliti, fatti, era come me. Io li passo anche il pennellino mentre modulo, tu non lo sai, però io la notte li compro con lenzuolo. È bellissimo perché noi ci sono delle cose che a occhio nudo non le vediamo, molte cose che possono essere nocive a certi componenti, massimo il contatto che ha quelle finestrelle per il raffreddamento anche lineare, già le stesse cose, e quelle lì ho visto che oggi io l'ho aperto, ho levato il coperchio. Guarda, l'ho dato una bella poetina, come si chiama, e c'era tutta quanta la roba della polvere che poi si solidifica anche col passare del tempo, e riprende com'è. È quella che non fa funzionare, cose molte volte. Begli appari. Parlami di questa stazione base, Antonio. Hola. Tu, scusa, c'eri anche tu, è vero. Avanti, là, dopo ricantano una cosa. Tanto ti dimentichi di me, Caro, non volevo. Hai ripreso il discorso. Vabbè, dai, continuate, dai. Me ne sono dimenticato anche, scusami, ma la verità, ho sentito questo affare e mi interessava. No, fai tu, dai. Vaga. Anche qui c'è una stazione base, se mi interessa. Oh, non sarà, no. questa è della mia, questa è bella, Mi sa che è un bel bella. Ma mi sa che ce l'ha, c'è un pensierino. Prendo più così, no, già non ho posto, e dove c'è poco lo metto? No, basta una. Chiaro. Quella della mitra è molto bella, se quella che dico io è una favoletta. Veramente mi piacciono, perché mi piacciono, ma non ne voglio più, non ne prendo più perché ci vuole il posto, io posso non ne ho, preferisco più questi piccolari che hanno un po' tutto e vanno bene. Vabbè, diciamo che vabbè, Luisa non è completo, ma se ti capitasse un Galaxy che è completo di tutto, non lo prenderesti? Poi non ne voglio più, sì, non è capitato ancora. Dimmi, parlami di questa stazione a base della Midland che mi sta entusiasmando. Ho detto parlami di questa stazione Midland, tu la conosci quella che è Stefa? Io non la conosco, cioè non la ricordo più niente, ma io non la conosco. Mi ha poca, mi ha un dottor papà Stefano, però non la ricordo più, la verità. C'è anche papà dentro la ventola tutta che avevo regalato io, non mi ricordo se ho ideale, se c'è un tazzoletto che gli ho regalato io anche. Sapevo papà, non la ricordo più. Comunque già vedi, passa qua, ho detto mi porto la roba, e gliela fa bene, chi serve. Non so se la lascia qui e boh, ma vediamo. Ma io vedi c'è la caspa e che la passa. Boh, ecco mi chiama lui. Adesso io vedi lo chiamo, vediamo un po'. Ma è perché alle 5 devo andare a lavorare quindi. Ma se te la lasciano, non problemi, io posso passare anche dopo quando esco dal lavoro a vederla. Vabbè, io se mi lascio la roba le faccio scrivere quanto ne vuole e poi mano a mano vado dopo di ricca. Gava. Vabbè, comunque lo Schuller se è nuovo le lo prendo io. Va bene. Io quindi io ti faccio sapere, non si faccio quel di più, ma tu devi andare a prendere, andare a fare documentazioni e ci prendo la testa tutta la mattina come me. Vi saluto a tutti, ciao Gianni, ciao Guato Gianni, Antonio, eccetera, eccetera, che c'è anche Macedoni che riporci in Bolivia. Ci sentiamo domani, che bella dieta. Va bene. Ciao Antonio, ci sentiamo, buonanotte. Avanti. Ehi, rimani per lo show, rimani. Se è nuovo, sì. Però io roba graffiata non ne voglio. Tu a me non mi conosci. Se è roba consumata non ne voglio, anche se funziona. Io la voglio, diciamo, tenuta bene. Se ho fatto così, e poi così fa, sono pignolo. Avanti. E scappa, te l'ho spiegato, perché non c'ho il posto, capito? E per quello che viene fatta una fatta, troppe no. Non ho il posto per poterle mettere, capito già? E se no già mi piacciono, auguri. Ma io un altro sottopalco ce l'ho per metterci, posso mettere sopra. Ne posso mettere uno e l'altra stazione è sopra, non c'è problema, il Milan glielo metto sopra e faccio io. Solo che c'è troppo macchina, troppa roba. No, su quello Schuller magari sono d'accordo, perché lo Schuller lo conosco, non so se te lo ricordi che ce l'aveva. Come ti cazzo si chiamava, che faccione, Don Diego, te lo ricordi? Che ha preso da Don Diego? Altri due? Sì, stavo dicendo, comunque io quel microfono che mi ha dato l'altarino già l'ho riesumato, è nuovo come quello che c'era alla fabbrica, vuole solo collegato. Ma non c'è campo sulla micro. Non è ceramico, è dinamico, ok, qui lo lascio. 975.000. Quindi già voi diciamo che la sveglia quando suona non è che vi manca voglia di mettere il piede fuori dal letto, e quindi andiamo a letto anche presto, presto, non è presto le 11. Poi diciamo quando farò le giornate più grandi anche noi aumentiamo la dose. Ok, di nuovo è stato un piacere monolare con voi, K2 passi in quelle di SK e vi auguro un buon tutto per domani. Rilascio il tutto a Antonello, ascolto il finalino e poi chiudo. Antonello ha chiuso già da mezz'ora. Tu non hai salutato, ma ha chiuso K2, vabbè. Ti saluto io, posso dire Antonello, ti auguro una buona notte. È una buona giocata per domani a te, avanti a tutti. Ti auguro ancora una buona notte anche da parte mia, Capri 2, non so se mi stai sentendo. Ecco piazza, Capri. Arrivano già qui, non bambini, l'antenna, su Valle Sant'Enna è lasciato. Comunque ve lo saluti molto cordialmente con tutti i numeretti, Capri 2 lo saluta. Lo ringrazio Antonio perché quando fai stazioni che possono arrivare al mio QTH è cosa molto gradita di tutti i complimenti che mi fai, a me queste cose piacciono molto. Ok, perché sono una persona che ci tiene, diciamo, all'amicizia, hai capito, e fa piacere. Peccato che, no, che siamo su due posti, lui ascolta a me e io ascolto a lui, comunque Anto, Capri 2 non ti ascolta, vuoi ti augura santi saluti e 751, dai. Ma ha detto che non ti ascolta, tu non ascolti lui, che sicuro si alza il palo dell'antenna, non è venuta di là. Beh, devo un pochettino sistemare, si deve. Perché ma non ha possibilità di metterlo in qualche altro posto. Ma è lui da tirare in lungo, perché se no giornate belle ne hanno fatte, se avesse avuto il palo pronto avrebbe salito e basta. E non ci vuole più Riccardo, ci vuole più di quello che ha fatto, mentre tu lo sai benissimo. Ma lui dove andare in campagna, libera? No, in paese abita, è come se abitasse in città, c'è l'asilo di fronte, con dei giardini, cose, no, no, abita in periferia, abita proprio al centro. Ah, cazzo, è peccato, se no, no, si era potuto risolvere in diversa maniera. No, lui abita proprio al centro, al centro di Mulos, Capri 2 abita, no, no, c'è problema. Già, e se no l'avrebbe fatto in diversa maniera, avrebbe fatto partire un palo bello, o tanti pali legati assieme, quelli robusti di acqua, già c'è il metodo per farlo, una cosa bella esce anche, c'è già il progettino in testa. E avrebbe alzato un bel antenna. Ma lui quello che ha paura ha detto che questa casa era del padre. Lui se l'ha tutta restaurata, tranne il tetto. Non ha fatto il tetto perché ancora era buono e cosa. E lui quello che dice è questo. Se dopo un giorno dovrò restaurare il tetto, mi tocca smontare l'uovo tutto. Quindi è meglio che prima faccia il tetto e poi metta l'antenna, l'antenna la vuole far partire da dentro, che ha la colonna con la mansarda e cose, da sotto, e la fa partire dalla colonna della mansarda e la fa uscire fuori, capito? Sì, l'attacca direttamente al pilastro. Esatto, come ha fatto anche con Giuseppe, come ha fatto anche con Savino. Quella è quella più robusta, la mette molto alta, se la mette molto alta dovrebbe uscire a bomba. Infatti, perché? perché lui deve uscire da quella montagna, capito? Il casino è quello, che lui c'è quella montagna dove c'è una galleria. Beh, c'è quanti metri in barra di luogo? Muros è già più in alto, però deve essere trovato qualche ostacolo. Trova qualche ostacolo. O sì, la usi se vai a usi c'è la grana, la usi è come ti dice la usi, la mano si costa. Quanti metri di palo ci vogliono? Non lo sai, per scavalcare la montagna. Ma penso che con 8 metri riesci a passare tranquillo. Con 8 metri usciti dal tetto, però 8 metri complessivi, perché devi contare che se la deve arrancare al pilastro l'antenna, ci vogliono qualche metro in più. Allora ci vuole anche un'antenna più grande, ci vuole per avere più uscita di cose, una mandola, qualche antenna lunga ci vuole, grande, una super lente, da che cosa forse ci vuole? Un'antenna molto alta ci vuole, tipo la mandola, una cosa del genere. Ma io quando mi ha chiesto un parere a me, io gli ho detto perché si lamanta, vuole la mandola o non la mandola faccio? Lui è andato lì da grassa, me l'ha messa sul banco, ma tu qua ti ha visto in pari, si è spaventato e non l'ha presa. Stavo dicendo, anche mi stavo dicendo Antonello che c'è la Superlem che gli hanno riportato il radiale. La Superlem è tipo Gran Prix, no? Superlem è come la mano, ma è uguale, è anche più grande. No. Ma non la conosci? No, non l'ho mai avviato. Quattro radiali c'ha ed è alta 8 metri qualcosa, mi pare. Ma bisogna vedere anche sempre la robustezza dell'antenna. Io sono sicuro che la mandola ti dura anche 20-30 anni, hai visto? Ti posso citare dei CB tipo Volpe che c'era 30 anni in antenna e sta sempre uscendo. Ci sono tanti CB Adriano, insomma ce ne sono tanti che c'erano tanti anni e che malgrado anche senza radio per tanti anni che riesce a uscire, ma io lo sento ancora dopo che Adriano esce una bomba. Comunque noi ci siamo sempre mandola, perché non abbiamo provato la mia antenna, però mi ha assicurato che mi dice che l'hanno anche rinforzata addirittura per essere più bella, cioè più robusta, cioè che va bene, è uguale, solo che è più grande. A quanto pare come prestazione è allucinante, come DB di guadagno mi sembra che ha un DB in più, è superiore. E la sai cosa c'è? Che io non lascio stare la vecchia per la nuova, perché poi magari fregato se ne trova, nel senso che quella zona lì è conosciuta, è provata, è testata da tante persone, la pubblicità gliel'hanno fatta tutti perché è un'antenna valida. Magari tu vai a passare un'altra antenna, non ti dà la stessa prestazione che ti dà quella, capito cosa c'è? Magari è superiore anche, però uno ha paura di provarla perché non la conosce. Magari continente la conosci e tu ti milanisci. Siamo un po' fissati, dai, anche noi. Io sono sicuro, guarda, con una risa che esce a bomba uguale come la mano, ma se va bene lo stesso. Dice il tamburadino, per quanto costa? Un centinaio di euro costa. La mantova costa 89 euro. E vabbè, siamo lì, dai. Non me lo ricordo bene quant'è, un centinaio di euro. Magari se magari rende bene, cosa ne sappiamo? E magari è resistentissima, perché dice che è stata rinforzata ancora tante anni fa. E va bene. per dire, ne esiste una di antenna che il materiale è più leggero, però è fatta in modo migliore della mantova, invece che inserire all'interno i tubi, praticamente il tubo, quello superiore ti risulta con l'uscita all'esterno, capito? Di modo che non entri acqua, c'è l'incastro esterno. Non lo so, comunque c'ha avuto un CP che poi l'ha tolta, vabbè, l'ha tolta perché si è disfatto, non so se te lo ricordi, parlava vicino a Daniele, dai, parlava, c'era l'assirio, non mi ricordo, foto radiale, diciamo, te lo ricordi quando l'aveva provato, però non diceva voce. Antonio Grotte. Pagato, già me lo ricordo. Poi praticamente ne avevano fatto storie, poi disturbava, non so che cosa. Lui aveva fatto in un giorno, come si può dire, ha comprato baracchino, lineare, antenna, tutto quanto ce l'aveva comprato. Ma non si sappia bene, lasciamo stare questa cosa. Comunque con quell'antenna si va un bel forte ed era un assidio. Ma lui era, mi pare che faceva il coso, il capo condominio. Sì, sì. Però in più condomini, No, già ogni tanto lo vedo. Io di persona non lo conosco. Però dice che ha mollato perché gli hanno fatto storico, ma è normale di fare lo stesso, se poi fa lineari grossi e cose, esce a volte malissimo. Mi aveva un piccato così, quindi già, ma se aveva comparato un gaffa. Però va a chiedere a vedere se ce l'aveva l'amplificatore. Mi aveva, tutto questo in Dio. Mi aveva uno piccolo per il baracchino e basta. Ce l'aveva. E comunque ha disturbato, non ha avuto più saperlo perché era già successo, però se ce l'ha già da un bambino, non è che era un giorno. Sì, vabbè, ma cosa vuoi fare? E ha avuto storia, ce l'aveva visto per quello. Non so chi aveva venuto, gli apparecchi però ne ha venuti. Io so che c'è tutto. Ma l'antenna l'ha tolta. Ma c'è anche quella ancora. Ah, però per il tetto che l'ha smontata. La tolta. A chi è? Non aveva il capo di piede. Vabbè. Anche a Daniele mi stava rompendo le scatole di San Persone. Che scappa, vabbè. Però... diciamo che... fanno abbindolare troppo, cioè ci stai dimini troppo, io non la faccio. Sì, non la devo dare, siamo fatto che, vabbè, se ne faremo faticare. Già lo so che tu cominciano tutte le scatole e quelle cose. Beh, troppo, se uno è debole di carattere, più di prima, devo lottare una cosa ieri. Sì, ma non è questione di bollette, è questione di evitare discussioni, chiacchiere, perché poi quelli vanno a dirlo in giro negli altri palazzi, sai come? Io lo so. Tanto se c'è un'antenna buona, chiaro che ti sento a tutto. Ha punito un apparecchio normale e va benissimo. Infatti chi so che disturbava? Da pure di buono c'ha pensamento alle domande, non prendete le scatole. Però io non avevo mai da stanza. Perfetto. Mi avrebbe stato un uomo gatto. E basta. Da pure, tanto che non intende, non ti preoccupare che ti intende. Lo grido. Poi se pone di accattamento a rinduare e non so da perché dovrebbe avere la cura apposta. Ah no, Genzaglia, che vive e non lasciamo vivere per loro. Se io non sto scocciando, cioè tu vieni a rompermi la scatola, allora lo faccio ancora più apposta. Allora attacca al vero, ma non ti so, però devo subire in mano un televisore, perché quella lì è gente di farle quelle cose lì, perché non mi sembra giusto, non mi sembra giusto. È gente da trattare così, Magari per il televisore loro, dall'antenna loro, come era nel mio palazzo. Il mio palazzo è stato abbattuto tutti, però era un'antenna che era aria ricatto, la volta dove si finivano i fili, tutto quanto, quella lì era proprio aperta, mi mancava il computer, dove c'è qualche colpo di vento e cose. Io sono salito su a vedere, era aperta. E dice da oggi, quando ha visto che era rotta, ha detto, bisogna vedere che era rotta. Come dire, magari ci sarebbe tutto a roba. Guarda, il caratteristico io l'avrei trascorta. Uscitemi tutti canti da guru. Hai chiamato te, compone l'antenna, canto di deputare, ciao. No, no. Io non devo pagare l'antenna del condominio, non so quanto è costata quell'antenna, 140 euro solo per l'installazione, capito? Tu c'hai quel carattere lì, a me prende subito il nervoso. No, no, è perché la devo pagare io, l'hanno pagata tutti i condomini, e una volta che ho messo l'antenna addirittura avevano già ordinato il filtro per filtrare le mie emissioni, mi volevano mettere un filtro. Praticamente ha detto non lo ordino nemmeno il filtro tecnico, perché era proprio ha provato a farmi parlare e a guardare se disturbava, non disturbo più nessuno, mi trovo non sta disturbando più nessuno. Se l'antenna è pratica è logico che devi amplificare anche la spuria. Cavagava era pratica, come ti ha detto sopra, ne farà un pizzo, vanno processo da solo. Come una toccata prova, se ne va, lì ero grido, adesso le faccio un bel verbale, ma a suo favore, non a favore del condominio. Meno male che sei iniziata quella storia. Mamma mia, devo sempre su chi farà mia. Basta fare le cose giuste, comunque se tu guarda io non vedi più, ma è anche pesante, cioè mantenere il primo non ti costerà meno di 30 euro, quella del secondo cosa costa? 16 euro, e quanto va guadagnato tutto questo? Io lo so che sono così, ha messo fra carro, ecco, ma anche adesso nei migliori che ci sono. E vabbè, sia vaccato, falla che la paghi io, non ne so, 40 euro. L'altra, quella del primo, per forza la pagherai una quindicina di euro. 20. Se tu vuoi andare via 140. E se ti fanno pagare il rischio, a parte che il mio tetto rischia la gente ci per passeggiare sopra. Abbiamo una sombra di dinà. Sì, sombra di dinà, sì. C'è da approfittare. Sì, ma se tu chiedi adesso è lo stesso, prendono così. Lo so. E dopo anche Bucaccione, insomma. Sarà padrone qui in terra, filo, quando c'era. E dopo mi sono dovuto mettere a raccogliere tutto il corpo, perché magari per colpa non a me che l'ho buttato io, capito? Beh, tu che ha fatto l'urano. Buttano tutto così le antenne vecchie, no, l'antenna mica se la porti via, cosa la lasciano sul tetto così, vola e cade sopra qualche macchina, poi se la prendere la responsabilità, gli ho detto. No, va bene, allora me la porto via. E a me se non è fra carro, passando la fusata, a compareggi, mi sopponevo a stessi, non li usiamo, sono buone gli antenne. Ma lui ha detto che la Fraccarlo è una delle più buone, addirittura Nicola Fraccarlo ha detto che non c'è bisogno manco di usare la purificatore perché prende bene. Avete voi? Il purificatore d'antenna è certo che ce l'abbiamo, tutti con lui ce l'hanno. Se andiamo in fondo non si può trattare questa roba. Lo so. e poi non ne abbiamo mai più bisogno, perché lui l'aspetto, ha fatto le prove, prendeva lo stesso perfettamente. Vabbè, lo sai perché lo mettono, perché deve servire un po' di famiglia. Beh, io lo so, insomma, segnale, basta che tu metti i calfi di scesa, è come se ci fosse praticamente un, come si chiama, un deviatore d'antenna, la stessa cosa. C'è l'antenna che entra da una parte e tutte le altre antenne nei condomini dall'altra. È così e basta. Se tu pure puoi accedere o puoi accedere, se no, hai detto che non c'era manco bisogno perché il segnale è forte che siamo di fronte a Monteo. Ciao, sì, è un poco digitale terrestre. Basterebbe un segnale buono e va bene. No, gli ho detto che costava di più perché me la stava mettendo direttamente per il digitale terrestre, quella apposta per il digitale. Adesso quella. Dove c'era? Eh beh, era già in fuga la studia, no? Che doveva nascere, ma tu la rete la metto già per il digitale. Detto, no, faccia quello che vuoi, interessante che io non disturbi più a nessuno. Ma poi insomma anche fatto un pochino diversamente, un più filtrato. Poi si puse da casa e ha scritto che praticamente l'antenna mia era piazzata perfettamente con tutte le cose che ci dovevano essere, che non era possibile che recasse disturbo, perché aveva verificato che l'antenna che doveva disturbo era quella del televisore. Ma meno male che ha fatto il rapporto. Sì. Mi hanno chiesto al quadrato, il capocondominio gli ha chiesto anche esterno, gli ha chiesto di fare un rapportino sulla situazione. Non ha chiesto la breghista? Ha detto che praticamente era dovuta a questa scatola che la senza coperchio che entrava a tutte le spuglie. Certo, era pratica tutto. Ma comunque tutto bene, quello che finisce bene, dai. Sì, è nuova l'antenna, la volta quando si fece evoluisce si arriva in giambattola. Perché l'antenna dura 20 anni. La voglia che dura, che ha tanto tempo quella giambatta. Ma io avevo l'antenna, mi pare che ha 2 anni, c'ho già 6 anni. Comunque quella lì. Cioè, un pochettino diversa dalle altre, sono più filtrate, sono già. Però porta a morire. Cazzo, non avrà passato a meno. No, non ti passa. Però ti si sente come tu muori. Bravo, io lo so. Io la cancretare. Allora non hai visto. Vabbè, faccio giocare con un caffè tardi, ci stiamo andando a letto noi. Ne va se poi io capullo come si mi piace. Già, buonanotte già. E allora poi siamo a te se passona, Adesso. No, aspetta. Sono due le portanti, una che fa e l'altra che come ha passato ti ha disintegrato, ed era fondoscala. E allora non vedi chissà. Cacato guaccio, guardala, ciao, buonanotte, gioca per la mattina. Ma io le ritrovo, so che io ho capito. Alla esiste dei guai, ora è solo le tue testa, poi cavo e antenna. Non ne so curare da boh, non ne so nessuno, no che. Ma te lo stacco. Da sai che di tu. Adesso gli stacco il pomello del volume. Che appassionato di si pesca. E me lo faccio imparato fritto e poi lo ragazza. Se vale la porta di schicciata come se valdi a sapere di tu. Però per volte te ce n'era qualche altro, c'era ci lo senti? No, era io che avevo passato al mio volo di faccio, mio. Ancora più bastardo, Laura. Proprio tutto al chissà che cosa. Sì, non è povero, già è bello. Cazzo, ma l'ho sentito poco fa già. Da, è poco bomba. E come hai fatto a sentire tanto? Ma sa proprio l'altra parte. No, già va bene. Con l'eco va bene, la verità. La verità. Mi piace di più con l'eco. Diciamo che siamo un apparecchio di quelli grandi, però è piccolino. Normale, un piccolo normale. Però sono contento, funziona bene. Va bene proprio. Va bene già. Buonanotte. Buonas noches, muchacho. Ciao per faccia, buonanotte a tutti. Anche ad ascoltare.